diciamo giocando così, facendo un po' di rinfresco alla memoria per quanto riguarda l'elettricità eccetera. Ma no, già mi ricordo sempre tutto, nonostante che sono passati ormai 50 anni che non l'ho più fatto, ma già mi ricordo sempre tutto alla grande. E anche io. L'altro giorno ho fatto un lavoretto a un'amica, ho fatto, che non era tanto in regola, che gli mancava il salvavita, gli mancava. Lo sportellino ce l'aveva, però dentro non c'era nulla. Ah, ho capito. Era collegata diretta allora, senza salvavita. Sì, il contattore c'aveva quello tipo nuovo, c'aveva lo sportellino, però era collegata direttamente al contattore, capito là? Eh beh certo, se non c'era la salvavita è logico, doveva essere collegata direttamente al contattore. Provato a schiacciare il tastino per vedere se scattava il salvavita, per vedere se era veramente efficiente. Sì, sì, io ce l'ho a casa, ogni tanto lo provo e gliel'ho fatto anche a quell'amica lì. Detto, una volta al mese prendi e premi questo qui, così almeno se scatta vuol dire che è a posto. Ok, bravo, una volta al mese, se devi fare quell'operazione lì, non costa niente, non costa più di niente, schiacci e così sai che sei sempre efficiente, perché alle volte sai, non si sa mai, può andare la varia, invece se tu lo controlli così periodicamente, è un buon sistema di tenere sempre sotto controllo lo scatto efficiente. Infatti lui era predisposto, però lei non è sapeva, gli ho detto guarda che non sei in regola così, mi ha detto, che se vengono a controllarti, sono cavoli tuoi da giudizio. Devi averlo per forza questo, infatti l'ha comprato e io gliel'ho piazzato. Ok, beh certo, quanto costa oggi un salvavita così, da 25 ampere? Ma una sessantina di euro l'ha pagato, perché c'aveva anche un altro interruttore, un magnetotermico ci aveva a fianco e quindi le ho piazzate tutti e due. Ok, sì. Vabbè, prima costava, quando c'era la lira costava intorno alle 60.000 lire, con la lira però, adesso è ovvio, si sa, hanno cambiato la lira con l'euro, per cui siamo sempre lì, sempre 70, 60, 70, sempre. Infatti, da uno ci ha divulgato, chi vi sembra? E allora, no, daru ladro, daru delinquente, daru ladro, siamo passati, così bisogna dire. E Marcolino, non si è fatto sentire. No, adesso è nel mondo dei sogni a quest'ora, Marco. Più tardi può darsi anche, ma adesso a quest'ora è nel mondo dei sogni. E a Daedri non va a pensamenti. O sia che cagliarà la moneta della luce a Edo, credo mai cagliarà la mamma, ma non a Edo. E infatti. Aumentato pure il tariffo, ma era giusto che arriva una bolletta paurosa. Vabbè, non si sa, ci mancherebbe. Ma è così. No, ma la cosa più curiosa, sai qual è? Adesso, a quanto sembra, anche lei ne sta mandando, anziché ogni mese, ogni 28 giorni, con acqua, no? Così a fine anno ti paghi una bolletta in più. E c'è una di macchia, vari, con danni già ne rimulta, ne mandano guarda la DIM, la borra, poi a tutti. A Valla ne ha craccato uno solurante di multa. Sì, alle compagnie telefoniche, sì, è vero, fulbici, no? Anziché far scadere il mese intero, no? Facevano 28, così almeno quando a fine anno, anziché se 12 rate, diventavano 13, compresa. Beh, di ladri, l'Italia è un mondo di ladri. Sì, i ladri solo sono, la tredicesima ci hanno fatto. E infatti la bolletta sarebbe la tredicesima per questa gente qua, è vero. Incredibile, ma cosa vuoi che ti dica? Natalia. Siamo un mondo di ladri, esiste anche la canzone così, un mondo di ladri. Infatti, tu hai ragione, siamo proprio in un mondo di ladri. Io non ce la faccio arrivare a fine mese, cavolo. certo che è difficile, bisogna andare col freno a mano, quando si fanno le spese. Io mi ricordo, quando c'era la lira, andavo il sabato a fare la spesa in macelleria, con 30.000 lire, allora c'era la lira, 30, 40 al massimo prendevo la carne per tutta la settimana. Tu oggi vai ai supermercati, nei negozi o nelle macellerie, dice qua di bianchi, è uguale, spendi 100, 120 euro e se non sei attento non ti basta per tutta la settimana. Io sto parlando sempre di macelleria, Eia, ma tu, se dopo due anni, guarda, è aumentato. La luce mi è arrivata, una bulletta, già lo so pure i bisogni di 2 euro di Lugano, però ho aumentato la bolletta, a me mi arrivava a 60 euro al massimo, non sai quanto mi è arrivato, 104. A te 104, qui a casa mi è arrivato a me 115 e poi in bottega senza usarla, tu lo sai, non sto più lavorando, dunque non sto consumando energia elettrica, no? 90 euro, tanto mi ha dato in un'idea, no? Senza stendere la luce, senza attaccare una macchina, niente. E io avrei staccato il contattore, avrei staccato, c'era stato che te, e vi avevo detto, il contattore è staccato in bottega perché è diventato un garage e luce non ne sto utilizzando io, come mai mi state facendo pagare 90 euro la luce? No, non la voglio perdere la corrente, perché da mai mi capita di farmi qualcosa per casa e dunque me lo faccio. A quel punto mi serve la corrente. Tu mi vai a dire, ma una volta ogni volta di babba, e va bene, quello sì, una volta ogni volta di babba, indubbiamente. Però mi è comoda, alla corrente mi è comoda, ho un'altra. Ma tu non la devi staccare, tu non devi staccare il contratto, tu dici il contrattore è staccato, come faccio io a consumare 90 euro di luce, ditemi voi, perché io il contrattore l'ho spento. No, ma non è quello il discorso, no? Anche se tu abbassi, in bottega è sempre abbassata, lo shock è sempre abbassato, non è che lascio la corrente così, io non ne lascio corrente attiva, non ne ho mai lasciato, in tantissimi anni che ho fatto il lavoro, non ho mai abbassato non ho mai lasciato la corrente inserita, anzi ti dico di più, io ho sempre staccato anche tutte le spine dalla presa di corrente, perché soprattutto in inverno non si sa mai, un temporale e ti bruciava i motori delle macchine, capito? Già lo so, ma una volta che è staccato. Cazzo, io lo stesso staccavo tutto, quando uscivo era sempre senza luce la cosa, perché staccavo l'interruttore generale. Appunto, lo sciolto, io stacco sempre, abbasso lo sciolto e la corrente non c'è più. Quando poi vado lo tiro su e ho di nuovo la corrente. Ma la bottega non ho mai, una sola volta, mai, sai cosa vuol dire mai? Lasciata con la corrente inserita, assolutamente no. Capita, e nemmeno le spine attaccate alla presa, sempre, tutte quante, le ho sempre staccate, in tutte le macchine. Ma lo credo, se cade il fulmine lì, cioè, la spina ti brucia un macchinario, so, durori. Appunto, perché anche se lo shock del contattore è abbassato e corrente non ce n'è, però la corrente, il lampo fa arco e ti brucia anche a distanza, ti brucia e capita a Puglia, a Maragana, anche se è distante il contatto, ti fa arco e te lo brucia, ti brucia il motore, non c'è rimedio, invece in questo modo è staccato completamente, non ho niente da fare. E non ti credere, allora sai che a me mi ha bruciato in campagna quando è sceso il fulmine, che mi ha bruciato il pozzo, no? Tutto il sudano che mi aveva fatto. Mi ha bruciato da plicchi di rubagno e non erano attaccati alla corrente, ti immaginate? Vabbè, quello sì, perché quello è il fulmine che è caduto proprio sul coso, però non c'è stato un aumento di tensione dovuto al lampo. entrato in lampo evidentemente lì. E per quello se ricordo era con l'anima di Emanuele, aveva il contattore nella cabina distante dalla casa, e io ho visto il contattore che gliel'ha fatto a pezzettini, è proprio in briciole il contattore, è esploso dentro la cabina, che fortunatamente era distante dalla casa, proprio a pezzi, e oltre a quello gli ha bruciato anche il motore del pozzo, che ce l'aveva in comune con un altro che abitava di fronte a lui stesso. E a me la pompa sommersa mi ha bruciato, cazzo, una studia che non c'erano soldi a pagarla, bellissima era quella studia, grande cazzo, e dopo si è posto una con i mattessi cavati ed era un punto giù di tubo, Maria. Ma è così, te lo sto dicendo, se tu passi vicino ad una cabina elettrica dove c'è un po' di alta tensione, amico, senza esagerare nemmeno molto, amico, il volt, tanto per dire una, intorno ai 5.000, 10.000 volt, così, e passi con una scala, amico, che è vicino, mi passi sopra, è pericolosissimo, guarda, anche con una scala, anche se la scala è di legno, però sopra ha le staffe per mantenere in modo che non si spacca la punta della scala, no? E ti fa arcomi, è pericolosissimo. Io lo so perché ho fatto anche tanti lavori all'Enel in quegli anni lì, e mi raccomando quando passa con la scala che sia sempre in posizione orizzontale, non mai in verticale, perché è pericolosissimo. E infatti è così, ma lo so, gli ho detto, guarda che io ho fatto prima di fare questo mestiere, facevo l'elettricista, ne ho fatto 12 anni, sono anche il mestiere. Ah beh, allora sì, capito? Io lo stesso non lavoro con i tipi in corrente, figurati, io lo so fare l'elettricista, solo che mi manca il pezzo di carta, capito? L'hai giusto, ho fatto anche tutti i quadri, non me li avevo fatti io a 380. Io ho imparato il mestiere proprio nei cantieri, andavo con la buon'anima di Mario Artemalle, che era l'elettricista più bravo che c'era a Sassari, anche più bravo degli operai di Varacore di allora, di Secchi e Madido, allora esisteva Secchi e Madido, poi si sono divisi, è diventato Secchi e Madido da un'altra parte, ma prima era una società Secchi e Madido e Varacore, poi c'era Sodini, tutti grandi elettricisti, ma con Mario Artemalle nessuno poteva competere perché era troppo bravo. E io ho imparato a lui. Sì, perché dove lavoravo io, no? Prendeva i lavori e li passava a questo Mario Artemalle. E il principale mi mandava con lui in cantiere, e allora ai tempi addirittura del tubo Bergman, quel tubo lamierino con l'isolamento dentro, con una specie di cartone catramato dentro. Per fare le curve c'era una pinza, tu con questa pinza facevi tanti stacchi a seconda della curva che ti serviva e facevi la curva nel tubo. Non è come oggi col corrugato passi dappertutto e poi se usi i tubi rigidi ci sono tutte le curve, c'è tutto oggi. Prima per fare l'elettricità prima dovevi sapere il mestiere. Oggi addirittura lo fanno anche i muratori nei cantieri, fate il dottore e base. Già lo so, io mi ricordo era passata con la licenza di Babbo, ho dovuto farmi tutto l'impianto elettrico esterno, perché quello che esistente non andava più bene. No, nei laboratori non si deve fare l'impianto incastrato, deve essere tutto esterno, con i tubi rigidi. No, non te la provano se no. Nei laboratori è così, Natalia, è una legge, Lo so che è una legge, infatti ho dovuto rifare da capo tutto esterno. I capi delle macchine avevo cambiato, perché quelli che c'erano non andavano bene, se no erano furbetti. Sì, ma ancora oggi, io so che ancora oggi è così, No, assolutamente, tubi incastrati nel muro, niente da fare, perché dice che non si sa mai, ci può essere un'esplosione, ci può essere e ti danneggia anche la casa, per dire, o il magazzino o la struttura, insomma, dove ci lavori. Mentre invece se è esternamente è diverso il discorso. Sì, sì, ma è così, io lo so, perché capita di non vestire lì una taglia, lo saprò. E i cavi, le spine, quelli che se non strinchiesi in interruttore, non si va la fila, e ui. Certo, quando sono le spine con la chiave, no? Ma certo, quelli sono di sicurezza, anche quello, è tutto. C'è l'auguria. E gli impianti industriali sono fatti con quel sistema di spine, di bocchettoni e tutte queste cose qua, le prese, lo stesso, tutti con lo sportellino, tutte così vogliono, e ci va credere. Infatti, se no non sia la spina, no, se no staccavi la corrente, no. Sì, allora, beh, un interruttore si usa in modo che se tu passavi, strappavi la spina, per dire, no? O meglio, strappavi il cavo da dentro la spina e non ti faceva niente, perché l'interruttore era staccato, cioè non c'era l'arrivo della tensione. E allora era così, era fatto così, e voi l'ho fatto così. Oggi, suppongo che ancora oggi vi siano queste leggi che lo rendono obbligatorio anche questo sistema ancora. Adesso ormai io sono fuori da anni, ma per dirti, io so che è così. Eia, eia. Quando è passata in calo a me, non varia più nulla. Solo i cavi, ci sono due punti di rimacchini, i cavi che erano attaccati ai motori di rimacchini, li ho dovuti sostituire. Cavi, spine, tutto. Tutto esterno, tutti i quadri, ma più fatto. E me li sono fatti io. E beh certo, è già quello. Poi c'è anche da dire questo, la corrente industriale, la trifase, soprattutto queste cose qua, deve essere separato in un altro tubo, quella dell'illuminazione, no? Dentro lo stesso tubo passi i capi dell'illuminazione e quelli delle macchine, dell'industria, no, assolutamente, deve essere una linea distinta, magari i tubi possono essere anche affiancati l'uno all'altro, però i capi dell'illuminazione in un tubo e i capi dell'industriale nell'altro tubo. Infatti, questi così separati, chiaro so, qui, ahi, avevo fatto tutto quanto, non so quanto avevi preso, il linea di materiale, figurati se mi chiamavo gli elettricisti a farmelo, chissà quanto mi sia il gomito. Sicuramente sta con i soldi, soprattutto per comprare tutte le cose, le prese, le spine, i quadri, i elettrici, i ritornatori generali, il salvavita, capita, un sacco di denaro che ci voleva. Poi oggi non lo so quando prendono appunto luce, oggi non lo so quando prendono, ma ai tempi che lavoravo io si prendeva, ma adesso vuoi vedermi 50 anni fa, sì che si può immaginare, si prendeva 30.000 lire appunto luce, si prendeva, per cui allora era lo stesso molto caro, perché gli stipendi erano quelli che erano e i soldi valevano quello che valevano. Infatti. Mi sono fatto tutto da solo, infatti quando la neviscio, prima di impianto a Biru, hanno voluto addirittura di cambiare tutti i cavi, perché quelli che c'erano erano normali e non andavano bene, e allora ho dovuto comprare i cavi, proprio quelli che vanno attaccati dentro i motori, vanno poi attaccati alla spina della corrente. Giustissima, ci ho dovuto chiamare. Una macchina aveva lo cavo suo e l'ha presa suo. Indubbiamente, già lo credo, ma è così. Oggi ci sono tante regole, ci sono anche i fili, il colore, oggi addirittura il colore dei fili che si deve tenere in considerazione. Il nero ad esempio o grigio deve essere il filo di fase, mentre il blu deve essere il negativo. E poi il solito discorso del filo di terra, quello giallo e verde, quello sempre a terra, sempre così. Oggi è così, ci va a credere. Non è che gli altri figli non vanno bene ugualmente, perché la questione è la deve mettere sempre quella. Però per dirti, oggi ti impongono anche questa distinzione qua. E così gli avevo fatto, infatti. Poi se una macchina girava al rovescio, gli invertivo la fase e la facevo girare dritta. Ma certo, quando sì, quando il motore è in fase, se sbagli la polarità, alla polarizzazione puoi girare al rovescio, certo, quello sì, indubbiamente. Ma già è semplice, quello cambi nella spina, inverti i fili nella spina e sei a posto, capito? Perché non è che ti vai a smontare la presa, no? La presa è stabilita in quel modo e sarà la spina ad aiutarti cambiando appunto la polarità di due fili. Infatti, io prima di chiuderle provavo le macchine, anche al collato sullavano i tutti, c'erano i bocuse vedi. Euclidea, capita, certo, soprattutto, e ancora oggi è così, le macchine industriali, eccetera, ci deve essere, intanto ci deve essere l'interruttore a pulsante, quello di sicurezza, ci deve essere, soprattutto se hai personale alle tue dipendenze. Finché sei da solo ci possono anche passare su, però se arriva l'ispettorato del lavoro a controllare e se il personale si dico tradizioni e se ci manca quello di interruttore di sicurezza. A ogni macchina mia, oltre alla spina, alla presa, eccetera, ogni macchina deve avere il suo interruttore di sicurezza. E erano così, c'erano tutti i magnetotermi, c'è capo un casino qua. Chiaro, beh, è normale, no? Oggi ci sono tante regole, una volta invece era tutto diverso, veramente ai tempi delle la valvola tabacchiera sopra il contattore, mica va venuto d'acqua la valvola e non era più corrente, e in ogni stanza quando facevi impianti civili di civile abitazione c'era il fusibile in ogni stanza, oggi no, di queste cose non se ne mettono più. Oggi si utilizzano tante cose, ad esempio devi fare un'invertita e utilizzi i pulsanti, cioè il relì, non il pulsante, come sto dicendo, il relì, naturalmente il pulsante è la posizione interruttore, oppure l'avviata lo stesso, oppure l'interrotta, la stessa cosa, sempre a forza di pulsanti. Oggi è molto più semplice il mestiere, prima invece dovevi collegare, saper fare i collegamenti, se non esami fa, saltava giù in aria. E qua non ho rifatto tutto l'impianto elettrico qua dove sono io. Che cazzo ci fanno le fiamme dall'antenna della televisione? Ma dimmi tu un casino. Addirittura ho dovuto sostituire i cavi del contattore, perché le avevano messo una prolungheu che lì era cavo grosso. Cazzo anche il cavo grosso, come ti invito cazzo, era una prolungheu, i pini, in un puntatore. Cazzo, ma chi c'è? Era un uomo vecchio, ubriacone, ma dico mia moglie. Non viene impianto di terra, non viene un cavolo enorme. Cadono i cosi non si sani. Ma chi non le sa le cose, non si può mettere a pasticciare, si può immaginare. Certo, la stazione dei fili è importantissimo, ci mancherebbe. I fili nell'impianto vogliono sempre da 2,5, così si è sicuro che qualsiasi presa che attacca una stufa anche da 2000 watt ti regge la spina. Le spine vogliono sempre da 16 ampere. No, non mai quelle da 10, anzi prima addirittura erano da 6 ampere, oggi sono da 10. Sì, infatti bisognerebbe mettere sempre le spine, le prese bipasso, in modo che attacchi sia la spina grande che la spina piccola. Però quando utilizzi qualsiasi macchinetta a casa, o una stufa, o un frullatore, qualsiasi cosa, è meglio che ci sia sempre la spina da 16 ampere, cioè quella larga, in modo che regge e non scalda né la spina né la presa né i fili, per il semplice motivo che così facendo consumi anche di meno, perché se no i fili quando scaldano diventano come una resistenza ed è un ulteriore carico a quello che stai facendo. Se fai una cosa che da 100 watt ti scaldano i fili, cosa succede? Che diventano 120, 130, 150 watt che stai consumando, non più 100, capito? tornata lì. Ehi, già è fatto tutto così qua. Io che ho un casotto, era bruciato di tutto. Ho fatto che è pericoloso, mi ho sentito di mille buco la gatta, oltre il tutto. Ehi, e non è quello, cazzo tu mi devi fare tutto di piatto qua, cazzo, qua. Un macello. Cazzo, quando mi mangio tirato lo capo di un puntatore, cazzo, quindi mi dà Bedu Grosso. E invece ha preso due spezzoni di quelli. Quelli multipolari, quelli belli grossi, che se ce li ho messi nel contattore e li ho collegati lì in pianta, sì, noi era una cosa ridicola, si salva vita sto con i figli belli abbrusi, ti pare che fosse una prolunga, cazzo, di chi ti fai duro? No, ma quando uno si utilizza fili da 2,5 metri quadrati, millimetri quadrati, sei a posto, perché puoi attaccare anche carichi pesanti, tipo tosta da bagno, la plancia, il frigo di cucina, un forno elettrico, tutte queste cose puoi attaccare quando c'hai i fili da 2,5. I fili più sottili, quelli da 1,5, 1,6, dai, più o meno, 1,6 mm, quelli lì si possono utilizzare solo per la calata dell'interruttore, solo per quello, ma là c'è la rapidità in tutti i posti, fai tutte le linee, anzi la linea addirittura burla 3 mm, è quella che alimenta tutto l'impianto, certo, ma quando tu utilizzi il 2,5, guarda, sei a posto, non avrai mai problemi. E infatti, è così, aggiungati, no? Era fatto un tipo, deve essere embriaco, lui ha spiegato da fare. Non si fanno queste cose così. Neanche pericolose. Io non credo che è pericoloso. Vabbè, visto si vede di là che hanno cambiato dall'uviru e da tutto quello che si viva, se l'ha imbriagati. E si è disattato. Non pari bene a raccontarlo. E gli altri non fanno vedere, mica in realtà ne sappiamo di queste cose, però purtroppo io parto sempre dall'idea, uno se non ne sa le cose e se non ne sa in maniera sicura, da rapidi, non ti permette nemmeno a fare certe cose. Io l'ho fatto da quel principio, io una cosa non so come va, non solo di farla, ma manco la baito, come che posso fare, ma che non mi interessa proprio. Figurati, a parte il fatto che grazie a Dio un po' il critico, io già lo sono, tante cose già me le so fare, non so come sono una mattonaccia o l'elettricità, e so come pure una tennista, so come per dire no, e so fare anche qualche lavoro di mulatore, e perché no? È critico, bisogna essere nella vita, vabbè, faccio 50 anni più di 50 anni di esperienza ai cantieri, sicché ne avrò pure visto mulatori come lavorano, no? Infatti, e anche io me la cavo lì, nel senso che il cane aveva fatto un buco in terra, a chi era cimentato pure in chi vi l'abilità. La sega ha ciappato una piglia, mi ha fatto un buco in terra, ma dove ci sono le mattonelle? Cavolo! Beh, ma ha fossato tutto il cane, Lucane, ma ha fossato tutto. E mi ha tirato tutta la terra da tre. Tu mi hai detto se mi ha cavato, un molto piccolo il suo cane. È un molto piccolo questo cane, cazzo qua. Allora ha giubilato il reggimento, mi l'ha giubilato, gli si è presa rapida, l'ha giubilato mezzo, ha lisciato, pari nuovo, l'ubizzo lì, non mi ha scavato. A massa attacca, non scavra più. E via! Certo, evidentemente quell'impasto era fatto più sabbia che cemento, o meglio, poco cemento, mi hanno solo fatto venire il cemento appena appena, e un letto era sabbione. E infatti, a riuscire a scavare così, mi ha tirato tutta la terra a dentro giù, cazzo. Lo presenti, mi ha giubilato un'incazzatura la voce, ho dovuto comprare la caldarella, la paretta, e mi raggiungo. giuro, la maletta è per mica uno. Sì, taglio un 4 io, paese. Taglio comprato una bocca, che si vuole puntare dritta, anziché essere arrotondata. Una bocca, cadarello, una giù tre, io già sto contrastato, vabbè. Io ho fatto la casa da pochi anni, no, che già, ma ogni tanto vedo che cosa da fare. Dunque, già sto contrastato, faccio un bicco, faccio un bottiglia, un bicco, ti puoi immaginare, faccio tutto io, faccio, non mi manca niente, faccio la rivella, ne ho due, la baletta americana, la baletta per mattonare, la baletta per intonicare, tutto faccio, tutto indistintamente, per trattarsi, tutto, cosa che non mi manca niente, insomma, ecco. E poi non fammi tempo di caipetti, caipetti da muro, o a taglio, a punta, e tutti i manini. E beh, è ovvio, no? Poi un operaio come te me, la trezza l'ha sempre avuti, tutti in mezzo. Ehi, cosa mi... Me l'ho dovuta comprare il cemento a presa rapida, già ce l'avevo, perché avevo fatto cosa qua. E quindi ho fatto anche quello. E poi quando uno fa da sé, sempre che uno sappia fare, quando uno fa da sé, il proverbio dice, il vecchio proverbio dice, quando uno fa da sé fa per tre. E poi lavorando con quelli al comune ho imparato a fare come fanno loro, e quindi qualcosa la so fare anch'io. E io grido, certamente sì. Io ne ho fatto tanto qua a me, capita. Tanto avete fatto tutti i drammesi, io no, a me il muratore mi ha fatto i muri perimetrali e l'intonaco mi ha fatto. Tutto il resto in casa l'ho fatto io. A partire dai tramesi, dai pavimenti, al tetto, pure la capitura gli ho fatto. Compreso tegole e tutto. Poi tutti gli impianti elettrici, impianti di TV, impianti telefonici, tutto qualcosa che arriva, impianti idraulici, anche l'idraulico, ma l'idraulico veniva di molto trattato quando veniva per dietro l'impianto, non la buona nei dubbi ti aggiunti all'interno, così da poi quando fai un bloccaggio, si trova la media e andate a fare il bagno, ma sono giunto quando è stato vestito ancora, cosa serve? A capo, a un capo, proprio trattato del netto, e dico, ma sta cosa va per dire la via della roba. Ma cosa si crede che io sono qua a bocca bica? E me l'ho fatto io tutto l'altro, tutti i figli dal clarinetto fino al rubinetto, ogni rubinetto ha il suo rubinetto o di chiusura o natalì. Infatti, se vai là, latte non sono competenti, io ti vado in un macello, ti vado, ne va tu perché ti hai fatto tu con tutti i rubinetti da vista, ma accusarli e gli subuntuevano per me. Allora, se ti si guarda un rubinetto, tanto mi fa un esempio, questo rubinetto non serve a Ruggiambi, però è a tutto il resto della casa, vi dai leva, sia al lavandino, sia a vascare a bagno, sia allo battere, alla doccia, a tutto l'altro. Dugna cosa vanno sul rubinetto a fare? Sia da fare la propria che fare la fredda. Dunque, quando disgraziatamente succede qualche cosa, arrivi su questo servizio, indivelo 1-4 e vai tutto il resto, non ti manca mai leva, compreso? E qua non ho dovuto cambiare il tubo gas che va dal portone fino a qua, tutto cambiato, più vera di tubi gas, vieni, guarda, chi su cani batti no, chi non lo... Ma qua da raccontarli. E anch'io, la pompa di sollevamento d'acqua, ma io vado, no? Perché io la tavernetta è seminterrata, no? E dunque il servizio, cioè la doccia che c'è, il doppio servizio che c'è nella tavernetta, perché anche lì c'è la doccia, con tutti i servizi, insomma il bagno compreso, no? E il sollevamento d'acqua l'ho fatto con la pompa di affidazione e tutto l'altro, che poi la butta dentro la cassetta centrale e per poi scaricarla direttamente nella rete fognaria, no, è ovvio. Complice, si crea tutto il giubbottino, così lo presenti, tu. E lì ha giocato pure un magnale per la picamura quando ero minori. uno o due camion di blocchetti, ma giù carrato, e li muovi, si deve cantonare con lampati, no, non vedo pure io. Vabbè, no, qui a me me l'ha fatto un proprio lavoro, ma a me mi ha fatto il muro millimetrale, mi ha fatto, ma l'ha fatto la muovita e intonaco, ma ne fatto. Poi tutto il resto l'ho fatto io, e cominciando dai giornalisti, la buona di tutti i giornalisti, ho chiamato l'intonaco io, e mi ha fatto l'intonaco, sia esterno che interno, è ovvio. Ma dice no, ma tutto ho detto, tutto io gli ho fatto, il pavimento, quello rimasto il massetto del pavimento, tutto io gli ho fatto, tutto. E tu vai nella roba, vedi dove vedi, non li vedi mattoni, uno alto, uno basso, come ti fai nel detto pavimentisti, no, tutti altri mezzi, botte, precisi, tutti in linea, epita. Addirittura la sala me l'hai fatta in diagonale, di mattoni, ti puoi immaginare, l'hai butti in diagonale, l'hai butti. Ma io molto un tempo che voglio molto, ma sempre una molto un bel, però ti posso garantire che è tutto perfetto, eh. Questo è difficile, non è facile a fare un pavimento in piano. Vedi, quello lì è difficile veramente, quello non ci sono buono io a farlo. Cioè non mi sono mai messo, però so che è molto difficile. È difficile per il semplice motivo, intanto perché ci vuole personale a farlo. Invece la giornata cosa che ho fatto io? Io mi sono fatto un telaio in ferro, in scatolato, ascoltami bene, mi sono fatto uno scatolato su una lieta di la grandezza di una porta, più o meno, quanti è la Ianna? 90 a 2 metri, 2 metri e 10, là. E saldata, questo coso, un telaio di ferro mi sono fatto, no? Me lo sono portato qua, l'ho messo per terra, ho tirato prima i rivelli, ho tirato all'interno della casa, l'ho messo per terra e l'ho cuneato al livello che doveva essere, no? Mettendo la livella sia in senso verticale che in senso, cioè in senso piatto per tutta la lunghezza dei 2 metri che in senso dai 90 centimetri di un vaso, no? E mi avevo fatto due di dai così. Quella fazia l'impasto, e la pavo dentro il sudaraio. Con una riga da bui, con una riga d'alluminio, eccetera, tu sul telaio strisciavi la cosa, il bassetto. E la cosa che ti viene un biliardo ti viene, preciso, bello, pulito, tutto a livello, come ti si tocca. E poi, quando hai fatto tutto il bassetto, la tutto, perché io tutta una volta non lo potevo fare, la volta vazia, a fare tutti i grandi metri quadri, è possibile. Poi prendi i mattoni e ti piace, no? Collante. Quella è una bella idea, dai. Noi invece li facevamo, tiravamo con la riga per fare i livelli, capisci? Facevamo le liste e già ho capito. Ma fa una cosa così, se vuoi la bettoniera, è più personale, perché tu qui su, poi in un manzano, ma dici vai tutto un salone, capita, tu pensa, lo salone mio, questi 4 metri quadrati, tanto per darti un'idea, e quante vasia io, a rasura, a che ci faccio tutta rasura, non veniva maniani, no, tutta rasura io qua, mi comparavo la sabbia, mi comparavo lo cemento, quello che ci voleva, insomma, no, e facevo così, una volta che la secco qui su, mi ha bastonato, che ho fatto, il biglio mi cavavo lo telaio, il ferro e il bunio a fianco, il bunio, compreso, e facevo da clienti e facevo due gettate alla volta, fin quando non avevo completato tutto. Infatti, e così è più giusto pure, e ci umiliare davvero, come ti hai detto tu, a chi non si vuoi sbagliare. E lo credo io, ma mi ha fatto sul telaio, e mi lascio ancora sul telaio, mi lascio ancora, pensa un poco, un coso, un profilato da 2,5-3 cm di spessore, è largo intorno ai 4-5 cm, perché tutto fatto bene a squadra, tutto preciso, non è tutto preciso, perfetto, tu buono in terra, buono la livella, in alto, sia in un senso che nell'altro senso, e ti rendi conto se si è a livello, no? E così via, quindi fai la realtà da Trento al secondario, quindi una riga e tiri, è nata lo profilato, tiri. Ma ragazzi, ci preciso è tutto, chiaro credo. Io sì, e ci preciso vai forza, non puoi sbagliare. Puoi sbagliare invece come avevamo fatto noi. Eh beh sì, con tutto il rigore lungo, puoi sbagliare, sì certo, invece cucino i bambini, no, ma con l'idea. Ma così puoi sbagliare, di proposito non puoi sbagliare, mai da. Assolutamente no. Io ho fatto tutto così, tutta la casa si è andata io così, tutta tutta, da sotto a sopra, se puoi immaginare, da prendetta mi sarà mattata. Oh io, travagliare tu vuoi pure giù giù. Ti capisco. E figli miei, andata lì, che lo sabato me la ribassate sempre in occhi e la domenica sempre travagliente. La lotta di mattano iniziamo, questa metà in 9:30 la lotta. A andare via a casa ogni tratto meno. Figlia Cuteggio di Sudore mi piangavo la data, a Figlia Cuteggio, la carità. Stato faticato a vino, ma comunque è roba mia e non vedo problemi. E infatti Isa si può dire che è stata sacrificata a casa, chiaro credo. Ma alla famiglia si fa di chi sei altro. Chiaro credo, certo. Sono di escavatore, ma che mi ha fatto lo scavo un paio di metri, no? Lo scavatore. 7 milioni mi aveva avuto, solo lo scavatore, li puoi immaginare. Solo lo scavatore 7 milioni. Che un calusi avevano un momento, ma abbiamo pagato 3 milioni, e mezzo, 4 milioni, solo di un calusi, tanto ma di una, no? E non ha becco nemmeno un centimetro della strada, della sede stradale, ma infilato il tubo della fogna, del gorro, il tubo d'argento del carico. Una volta, ma che proprio era un chiusino, proprio a filo di muro, che faccio la casa io, quello chiusino del carico della fogna, no? Comunque la fogna poi è alla sabbia della strada, però in chi vive un buon argomento visto il chiusino. Una volta no, che si tagliava la casa quando io avevo imparato i nonchi e avevo demolito la casa vecchia di Ufila, vero? Una casa di 60 metri quadri, avevo demolito tutto e avevo fatto una da 200 metri quadri. Ho capito. Sacrificio per i robuti, comunque andare bisogna pure fare così. E oggi penso di meritarmi il riposo pensionistico soprattutto, se Dio mi lascia, e chi lo sa, se lo meritissi. Io ci ho travagliato la vita mia, 62 anni di travaglia ci ho fatto, una tagliata, no, uno no, 62 anni, avevo 10 anni e mezzo quando ho cominciato a lavorare, 10 anni e mezzo, andavo a scuola e andavo a lavorare, nonostante tutto mi sono diplomato geometra, però non ho mai potuto esercitare, perché essendo io il primogenito a casa di mamma, eccetera, ho dovuto lavorare per prendere soprattutto gli assegni familiari per i miei fratelli, perché mio padre era mezzo invalido e dunque no, anche se lavorava lo stesso, però era mezzo invalido e non è che poteva fare più di tanto. E quindi ritorna a casa di lui a rigatto. E io credo, e allora la rigava, la maggior parte di noi la rigavo io, ma è normale, no? Vabbè, fin quando io non ero con voi, naturalmente hanno lavorato anche i miei fratelli, eccetera, eccetera, anche loro hanno collaborato, no? Non venivamo a Cavadina in capo alla famiglia mia, sia da parte mia che da parte di mio padrino, no, tutti quanti avevamo collaborato. Va bene. So già di sì, non sarà eccitato Marcolino Condo. No, Condo fa così lui, fa. Dal letto al tavolo, a tavola per mangiare, vero Marco, ci sei? Marco, è in affura, se non vengo a toccare la Iana. Ah, te l'immagini questo Marcolino Condo, non ne posso fare né casa né l'anaga. Oh, figurati. Attento Claudio, non che ne spaziero. Ecco da già a fare Claudio, mi devo battere il lavoro, che travaglia come c'è un dannato, tutta tanta la rimanda, da decidere di mangiare, mi sta mettendo a tanto la sera. Ecco ti bacio a Claudio, addirittura. Oh, ya, yeah. Ancora magari non è arrivato a casa tua. No, stai entrando alle 2 adesso, se non è che è successo qualcosa, allora si è dovuto trattenere. Ma se no, sta uscendo alle 2 adesso. Che ha finito la stagione. Ah, così è. E allora è impegnato in altre cose. Attento Claudio, non che Spaziero. E magari già ci sono, è che stanno ridendo sotto i baffi, o l'argomento era troppo importante, stavano ascoltando, capito? Ah, fanno i curiosi, dai. Dai, va, daga. Vabbè, se stanno ridendo sotto i baffi, andiamo con una lametta e gli tagliamo i baffi, così almeno ridono senza i baffi. Ah, vero, specialmente quel Marcolino Condor. Marcolino, beh, ce la fura. No, non la gara, eh. Vabbè, sono le 16:05. Vabbè, va detta. Facciamo un po' di pausa, vai, Natali, dai. Ci ha lasciato acceso qua, facciamo un po' di pausa, magari un po' più tardi entreranno anche loro. Ci sentiamo dopo, Natali, ok? Ah, va bene, c'è tutto l'utile del video. E fa così, là, che io vado al frigorifero così mi bagno l'uvola. E fate così, là, già sto arrivando subito, stanno a mangiare il cane. Mia, rintende, è un escito. Vedi, beh, Claudio, dai cosa buona da mangiare al cane, no? Non mi va, vabbè, lo so, mi avrà dato cosa buona, ma voglio dire, non fa quanto quanto dettagliente, no? Ti fanno un grande solo un sport, la vuoi tratta male, tu già lo so che lo tratti bene, non sei di quelli. Ecco, la vedo, ma è che ho la 42 euro, lo giacco. Io attraverso perché ho bisogno di riposarmi, anche sono arrivato a casa che ho 3:30 da stamattina alle 6, quindi no, come te sul buco di Marco, che faccio difendere il cuscino. Io mi taglio nel divano per dopo il pranzo, perché ho pranzato alle 3:30 e beve a biocco, e quindi adesso mi sono sistemato, sto sistemando il cane, ma comunque vi stavo ascoltando, non ti preoccupare. Sono un po' davanti perché stavo sistemando il cane. Dai, datemi 10 minuti e sono qua dopo. Ok, intanto mi do lo sguardo al televideo, anche perché me ne vuoi informare della Juve, cosa sono convenienti. Ci sentiamo dopo, là. A dopo, Natali! E vai, Natali. Natali. Sono qua, là. E vai, Marco, intanto. Negativo, non è entrato nessuno. Non so, sarà in giro a fare commissioni. È un po' stanco anche io, so. Sono stanco, Baromi. E poi ha poi oggi una giornata splendida, bellissima, che aspetta veramente. Stamattina so, c'era freddo, poi dalle 9 in poi, alle 10, ha iniziato a fare caldo, si stava benissimo. Ieri notte me ne sono andato a pescare, ho preso 14 saraghi. 14 saraghi addirittura? E la Madonna, ma belli! Eia, qualcuno grandetto, me li ho venduti. Oh, e a chi? Ristorante? No, un'amica di mia moglie. Saraghi buono. I saraghi sono un bel buoni, un bel pesce. E tanti siete rientrati? Verso l'una e mezzo, là. Kappa. Ah, va bene, vengono a prendere, sono a quell'ora, forse ce non è troppo per la mattina. Oh, ma certo. Oh, lui sul vicolo. E manca fare la posta, stamattina sono andato a spostarla, la macchina, se n'era andato quello di dietro. Se pensate, sono così rabbindarito. E va il mio rubosteggio. Ah. Già va bene allora. E va bene, cosa vuoi in casa? Ho guardato tutti da esplicata la macchina, anch'io sai che faceva anche il video e tutti mi metteva la musica pure. E se n'era andato quello che c'era dietro a me. L'ho preso, sono tornato indietro ed è in regola. E si è andato bene allora? Sì, tutto ok. No, l'abbiamo chiamato varie volte, lui Giulio, ma no, non respirava. E non respiro perché ho già la bocca piena a quest'ora, capito? Oppure drumito, ci ranghelli. Allora, ci rangheggia a voi, chiedo. Alle 6:30 di sera, ma dimmi tu, io non riesco a farmi né caso né l'ana, ma per lui è notte fonda, capito? E dubbia, la notte parla. Oppure è uscito a me, sarà andato da lì a comprare qualche cosetta. Magari qualche cosetta per la fidanzata, ma se offendi che si buffi di nana, capito, che si sciarpe in offerta la lide, i guanti di nana. Magari vai a quest'enti, metti la vecchia di buffi e vedi cosa arriva. E infatti lo provocheggio, quando non entra un maledetto pipistrello. Pipistrello malefico, entra. Io come sto? Ma carità, io. Ma c'è dovuto fare tutti i regalamenti nuovi, tutto distrutto. Torra, ma perché? Ma incucciato hai, no? No, non si incucciava lì, no. Che cazzo, da poi un fuoco così. Oh, ne perdiamo. Ha giù messo un galleggiante. Mi si è incrugliurata la renza di un mulinello e ha giù messo un calamento in tre. Ehi, addirittura. Proprio l'hai messo di tutto. E allora? E dopo mi sono accorto che ha pescato pure quel calamento perché è sprofondato, certo non lo so. Cioè prima l'hai beccato, ora pure il pesce. No, ha pescato, quando io l'ho perso il calamento, poi ha pescato. E sciuglie. È proprio... Allora, lì è questione di fortuna. Quando lo pesce, poi è venuto la va. Infatti qua nessuno ha già fatto li hai fatti nuovi quindi? Sì, due me ne ho fatto. Adesso mi mancano. Cioè, i calamenti sono completi due. Adesso bisogna che quando riuscito mi compro qualche galleggiante o qualche catturatore nuovo. Perché mi due soli adesso. Capito più. Va bene, va bene. No, non l'ho mai fatta sciare, la pesca io andavo a galleggiare con Franco. Vabbè, Franco al lancio, io siccome sono buono a lanciare. Allora mi armava la canna a galleggiare, mi volevo anch'io a fiaccare, tu capito? E prendevo sempre qualche cosa. Ma con questo calamento ti dicevi, ma ti dica che cosa? Ah, peschi per forza. Con questo sì, è una cosa diversa, vai con i bigattini lì e peschi. Con i bigattini non si tratta né di americani né chi né chi, perché si usano a fondo quei 2000. Anche i bibi, però devi mettere l'amo più grande. Ah, ho capito. L'amo più grande ci vuole, non ci vuole quello normale. L'amo per i bibi e per gli altri pesci, per gli altri pesci ci vuole quando pesci. Con quelli lì devi cambiare l'amo. Io uso ami microscopici e pesca. Cazzo, la taligiano che vengo. Ci fosse un suo tipo di pesca mettendo la camorudito. Ti sto dicendo, non devi lanciare neanche lontano. Vai con una canetta del cazzo e qua ti diventi a muccia, chi ti vuoi disturbare al galleggiante, i tiri e per usare la staccata. Ma dove andate voi allora è proprio il posto di sciaghi, perché tu peschi sempre sciaghi. Ehi, c'è anche altra cosa, ci sono dita giurita, aveo sciaghi. Oh, mi raimo la gana, ce l'ho io una piccolina, ma la signora ormai me la faccio sistemare perché da un bel che è ferma e mi è andata a picchiare pure io, così mi ha divertito con galleggiante. Cazzo, se vai al porto anche, però avanti non si va a camminare, bisogna trovare qualche posto bello per andare al a pescare al galeone, con quella lì si diverte. Metti lo starlight, quando vedi che si vara, certo, dici che si guarda, e ne ho perso pure, guarda, senti di vero. Addirittura ne ha perso pure. E vabbè, non porto la mano, non si può più pescare, però già qualche amico già ce l'ho, dai. Già ce l'ho. Vediamo un po'. Sì, ma portandomela, la mia piccolina, la canna, capito, di quella corte. Portandomela anche lì nella zona dove sono io, all'isola Rossa Porto, lì dagli scogli, già si pesca. Ehi, però te la devo armare io, perché è regolabile quel calamento. Lo puoi regolare alla profondità che vuoi. Ah, ecco. Vabbè, dico, se ero buono, a un paio di metri. No, io a 10 metri stavo pescando. Addirittura? Sì. Tanto roba di fondale, vecchio, allora. Eia, se puoi regolare. Se tu vuoi pescare a 3 metri, per esempio, peschi a 3 metri, non di più. A chi si blocca, no? No, ecco. Dipende come vuoi pescare tu, E allora? Perché c'è uno stopper, c'è nella leccia, che ti blocca tutto. Ci vogliono delle pedine che ce le ho io, di quelle per le collane, e tipo, oh, cazzo, guarda, è bello, se lo vedi, cazzo. Delle perline, cioè tu poni le perline e lo cose dello galleggiante. Ehi, hanno il fatturatore, ci vogliono, è complicato come calamento, però, cazzo, almeno pesci. Se lo puoi regolare, non se vedi che non pesca una profondità, prendi e sposti lo stopper e praticamente come vuoi tu pesci. E allora io andavo, se è regolabile già va bene, ma manco ti dimentichi. È bello, a me deve stare a turno di su, chiaramente, guarda, la galleggiante è tremendo. Ma che budget, Luca? Cosa vuoi? La carne. Ah, la carne ha visto. E dagliela un pezzetto, no? Attento a Marcolino Condo. Lo fai il gioco della cassetta. Marcolino. Marcolino, ci sei? Lo studio, guarda, mi si sa mai dava tutto tutte le video. Oh, che non farò, prova a cercare perché stasera, c'è niente. No, oh, per volevo aggiornarsi sulla Juve, non so. Come si deve aggiornare sulla Juve? Ah, di quella roba che è successa. La Juve se non si attrezza, ah, ma vai a giocare domani ve lo devi, Juventus o Torino, o Torino Juventus, non so se giocano al campo della Juve o al campo del Torino. Cazzo, così è bello, e domani ci sono scintilli, domani non li può fare turnover, no? Domani se non va attacco con le contropalle, Belotti ne fa di 5 di gol a Juve, il gallo del Torino. Fortaleza subizzini. Vabbè, ma noi ci abbiamo i guai che ancora non ha toccato palla. Ah, ma mai tendesi a concetta i miei lugari. Stavo già malangati. E a chi devi buttarmi? Ah, ma è da cosa poi si è posata nel divano ed è ferma. Ma forza che taglia a mamma, che ti vuoi, vai là. No, Filippo ancora no. Oh, che ora so. Sono 7:25, no, 7:30, come lo qui, ho mangiato poco fa alle 6. Adesso non lo so se domani andiamo a finire. Già ci sono, sì, stanno facendo, i gallura li stanno facendo, porcini, quella poca acqua che ha fatto, mi grusoli, sono usciti dei porcini, e io non li conosco, non ci posso andare, Anthony. Non li conosco. Neanche io non sono mai andato. tentativi era dopo vento, siamo andati a Concui, so il posto, però quando è vento non bisogna andare, è che non ho infini, e sono sotto questo. Volta, ma non è che vado matto, ma il funghi mi sarebbe piaciuto, ma purtroppo non li conosco. Ma santa sora di tutti che conosci, la giuna è tu, capito? Cade il tempo di raggiungo anno, si riconosce e taglio pure io. Vabbè, ma tu vai con quel che conosci, io non mi importa, cosa ci hai fatto? Infatti, bisogna acciappare la gentilizia. Se mi portano già va, ma se non mi portano un canto la giura. No, se non li conosci è tutto lì. Infatti te lo sto dicendo, io non ci vado perché non li conosco, se li conoscevo già ci andavo. Marco! Oh signor! Io quando andavo a caccia qua non ne ho mai fatto, e per quello né gioca né coccui, anche per la gente che si filmava e andava a pisare lo fusili a giro. Io quando andavo a caccia andavo per cacciare, non per fare altra cosa, invece chi si filmava ne facevano i funghi, facevano gioca. Io non mi sono mai filmato, ma ecco perché non li pensi, no, di più la più conosciuti pure io e li funghi. Sì, infatti un cacciatore che non conosce i funghi è difficile, capito? Per i cacciatori andando a caccia stesso, camminando ci mantengono a buttare il cucumento, perlomeno i cacciatori che conosco io sono così. Invece uno che non va mai in campagna come me, no, cosa ha dedicato a vada a conoscere il cucumento. Funghi devi essere bravo a conoscerli, perché se sbagli hai perso. Non ne conosco nulla, cos'è Antuna? Non conosco né Antuna né nulla, so che prattaiolo è bianco, però ci sono prattaioli anche velenosi e quindi ne vuoi andare. No, infatti se io non perché non ci vada, perché non li conosco. Se vado dalla contente che li conosco, ormai so qui è buono, c'è male. Quello ti sto dicendo io, se magari vai un paio di volte, due, tre, quattro volte con gente che li conosce e li fai assieme a lui, ti ricordi bene come è fatto il fungo, magari puoi andare pure una sola e fallo, ma prima devi comprendere come te la cosa, se no è pericoloso, ma stai scherzando, ci puoi rimanere secco con il fungo, secondo quello che trovi che è velenoso, se mi rimani subito immediatamente, caput. Ehi, già lo so. Io non ti sbagliavo di noi. Ma tu lo hai vero? Ah, ti conosci tutti gli stessi, ma laggiù. Non so, ha cantato di spesa. Mi vuole buttare, sì. Che vanno sempre a tutti i lavori. A cosa, a ciocca. Ah, beh, certo. Ma tu lo stai dicendo? Cioè, io vivo se mi ne andate a giocare pure a Azzurra, tanto sono con lui, non ci credo in attesa, cazzo, mi vergo qui a Italia, pure. Però non ci deve essere vento, se c'è vento non è truggi, ho garrotta qua. Ma tu quando andavi a caccia andavi da solo o in compagnia? Molte volte andavo in compagnia e più delle volte da solo, anche a me funziona di andare da solo. Giusto, usci per fare due tiri, là. Beh, quando andavi in compagnia non ce n'erano cacciatori che conoscevano i funghi. Ma io andavo vicino a me da casa, anche di fronte a casa andavo, quando non c'era tutte le abitazioni. In chi era puntumato, ma io andavo a tutti, si sta in posta lì, non è che puoi muovermi. Ah, beh, a tutti sì, no, la... come si caccia già lo so, già ci sono andato. segnali, non so di cose, ma non la mano, non mi potete più a me. No, io fumavo, cazzo. Io quando lo vedevo, mi abbassavo, come si passava tu e ne urlavo. Adesso praticamente ho sentito che c'è un problema, boh, con la caccia, non so cosa. Cosa è successo? Siete dovuti aprire anche da passata, invece c'è stato un problema. E forse la regione non hanno approvato il calendario venatorio e non hanno aperto. Sì, ma non riesce a comprendere, cioè uno impegna un sacco di denaro per i cartucci, per i fusili, per i versamenti, perché so che è costoso il coso venatorio. Voi tu non approvi e un cattivore cosa fate? Ha pagato, va tutto l'anno, va andare a casa, non può andare. Se la stacca a culo il fucile. Crumiro. Io. E voi Crumiri, non c'era nessuno ieri sera, non ho sentito un'anima, almeno credo, era acceso. Ma ero dall'altra parte, ero in camera mia. Eia, vabbè, a me già i staccacciatori non è che mi stiano simpatici, perché uccidono animali poveretti così per divertimento, che se vogliono mangiare la carne in macelleria o doscian la trovano, capito? Buonasera a tutti comunque, dai. Adesso vengo col fucile a pompa e ti sparo il campanello di casa. Sì, cioè, non va da nessuno, come te che attendo la baracchina mi andando un comodo. Sì. Baracchina in accesso, però io non nella tua stanza. Vai, ecco, cade vai. Ma perché Natali, tu sei il cacciatore? Adesso ti tiro il campanello a palla singola. Ehi, ma ho detto, ma tu eri cacciatore? No. Ma cosa no, se sei venuto pure tu a caccia con me, cosa cazzo no, tu e Alessio, che lo volevo far sparare col fucile Alessio. Ma sai Natali, sono passati anche 30 anni, credo che tu avessi smesso di cacciare. Sì che ho smesso, però non sono contro la caccia, perché non sono i cacciatori che fanno il danno. Sono i bracconieri, maledetti. No, nemmeno io però sono contro la caccia, cioè ognuno può esercitare il suo diritto come vuole, però io personalmente non mi piace uccidere gli animali. Non vado manco più a pesca, figurati. Poi sai, certi animali sono belli, anche la volpe, uccidala, mi piange il cuore, capito? Vabbè, il cinghiale è brutto e cattivo, lo ucciderei volentieri anch'io, quello sì. Vai Claudio. Anche a me non mi piace uccidere gli animali. Però è così, purtroppo anche quello è uno sport che esiste da anni, figurati. Babbo è morto nel 1960, io avevo 3 mesi ed era già cacciatore, babbo. Infatti io ho la cartucciera in pelle, fatta la Mastro Gerolamo, capito, da un gatto raggio proprio, con gli anelli, Natali, quelli che si usavano un tempo. Il porta caccia, il porta uccelli, chiama come vuoi la cartucciera. Uccide invece mamma, ce l'ha tenuto lei, un cosero, un automatico. Non metto manco la macchina, c'era Benelli, c'era Indiana, boh, non me lo ricordo. Comunque quello c'è la mamma. Porta cartucce, la pendicaccia ce l'ho io, capito? Fatto bravo a mano, impedimi. Fatto in pelle dal cartolaio, Marco, ma sai quanto è bello. Con quegli anelli, anelli di tende, mi si appiccavano in denti prima. La pendicaccia stai dicendo tu, attaccati a 2 a 3 me alla pendicaccia, perché non c'erano posti sufficienti. Una volta sono cazzato nelle zie e mi ha giubbio in una banca. Ma io proprio non l'ho conosciuto, ti ripetevo 3 mesi quando è morto, però non mi metto che era un bravo cacciatore, andava a caccia e cacciava un bel. Ui. Vabbè Marco, com'è la situazione? Sta a posto? Uscito sì, oggi hai visto? Bella giornata. Eia, me sono andato da Pomponio prima. Abbiamo chiacchierato, ci siamo bevuti una birra, almeno io un bicchiere, tu lì tutto il resto della bottiglia. Un po' di patatine perché ero a stomaco vuoto, se no mi... Sai, io devo guidare, se no mi inciccia proprio. E così, dai, poi me ne sono andato perché devo mangiare a casa. Ma questo qua, ma stamattina, o stasera? Sì, stasera, poco fa, a me. alle 6 me ne sono andato il solito bar del distributore, ogni avvoluto stavo facendo, però mamma mia, parlando a voci messe, sono dei pastori là, cioè in un esercizio pubblico dove mai si è visto che gente fa la voci messe, ride a voci messe, proprio pastori mi. Al bar del distributore, il distributore di fronte all'ex casa di Ivan. Ah, no, attendete che ci fosse male, sono entrato io. Oh, io lo rifornisco perché la benzina è a prezzo buono, capito? E basta, sono mai entrato anche a prendere un caffè. Io vado al quadrato, vado ad Andrea a prendere il caffè che è buono, è una cosa pulita, chi su, beh, lascia perdere. Vai Natali, le prendi. Ieri notte io ero a pesca e per quello che non c'ero. Ho preso 14 saragi. Minchia! Com'era piatto? Non ce n'era vento ieri, no? No, ieri non ce n'era vento. Il vento è che rovina tutto perché mette corrente e cose, allora è l'occhio. Lo stesso la volta con quattro giusto. Per il semplice fatto che c'era vento, il mare era mosso e non vedevano l'esca, c'erano tutte quelle alghe e le bestie non vedevano l'esca e non ne abbiamo pescato manco uno. Si è stufato, mica stufati Gianni ce ne vuole, beh si è stufato e ce ne siamo andati. Ma Gianni nostro o Gianni un altro Gianni? No, Gianni lo più lungo. Via. Sì, lo so, quando ci sono le alghe e poi fa il malloppo sull'amo, l'alga non va bene, dai. Este è un macellus. Vai Claudio, forse ha detto che trova anche Pomponio. Antonetti, sì. No, sono col baracchino, intanto se entra in qualche altro canale già mi ammazza, quindi già lo sento, non c'è no. Eia, ho sentito Graziano sul 20, io volevo sapere come stava, non lo si sente più spesso e forse la salute non ne ha più voglia, nemmeno lui. Siamo tre gonzi noi, uno, due, tre, teniamo in piedi il canale, poi ogni tanto ci dà una mano anche Valerio. C'era anche Valerio e che è andato a vedersi il televideo, stavamo parlando alle 5, io e Giulio. Ma infatti io sono entrato e poi stavo andando a mangiare il cane, c'era Giulio poco fa, ma sì, stavo ascoltando anch'io poco fa, mi ha fatto piacere sentirlo di nuovo, so che non è stato bene, ma penso che adesso stia bene, è in radio, quindi già è tranquillo, Ehi, poi se passa di tanto a salutare qua, buono ancora, meglio ancora. Bene, bene, bene, sento odore di pappatoia qua, sicuramente mamma mi ha già cucinato, c'era mia zia che mi voleva di nuovo a cena, in campagna, però che paranoia, dopo mangiato non sai cosa dire, cosa fare lì, quindi ti viene voglia di mangiare e andartene. Anche l'altra volta l'ha detto, credevo che rimaneste di più, invece mangiate, state così, mezz'oretta poi ve ne andate. Certo, io lì vado a mangiare, non vado mica a chiacchierare, no. Vabbè, no, io la verità sono entrato alle 3 passate, che siamo usciti all'1:30, dovevo andare lì alla Genovese Gomme, che apre alle 3, e quindi siamo andati a pranzo lì allo Spittigate con il collega. Ho pranzato, poi lui mi ha accompagnato qua e è andato con male, mi ha accompagnato a casa, è andata con male, è stato domani c'è lui, quindi si è preso la macchina. E niente, mi sono tagliato un attimino al divano così a vedere qualcosa. Cazzo, mi gioco dormito, mi gioco scitato veramente che metto. Da 5 metri assieme a un 4. Oggi sul baracchino c'era Giulio con Natalino. Non sono entrato, stavo ascoltando. Poi li ho avvisati, ci sono anche io, datemi 10 minuti che sto chiedendo a mangiare il cane, lì si è andato a mangiare il cane, poi sono entrato a fare 2 chiacchiere con Natalino, capito? Siamo sempre noi, eh? Siamo solo noi, tre disperati. Ma l'altro giorno di mattina ho sentito Gianni, è impegnato, però tu devi salutarvi tutti, che è impegnato un po' col lavoro, con altre cose personali, quindi insomma, già entra, comunque appena si libera già entra. Va bene, fatemi il chiesto, stavamo entrando, sì, insomma, una sera sì, una sera no, a volte entriamo tutti i giorni, dipende già, deve... dipende, insomma, due chiacchiere già ce le facciamo, va. E lui mi ha detto, mi impegnato, con lavoro, altre cose di casa, insomma, ho detto già ho capito, va bene così, quando sei libero entri, quando no, pazienza. Vai Natali. Infatti io sono da un bel po' che non lo sento e non lo vedo, cioè. Beh. Volevo cercarmi qualche posto per andare a pescare, a galleggiante, per non andare nel posto dove vado con quegli amici miei, capito? Così posso andare con qualche altro. Ma dove è, vicino o lontano? No, ma non ci voglio andare, sai che vengano loro e mi vedano un'altra gente mia, fai niente, appucciate, un prezzo. Invece io mi voglio cercare altri posti per poter andare anche di giorno, ma quando voglio io, insomma. Organizza, vediamo, diciamo Gianni, magari, se si libera, qualche posticino così da trascorrere un paio d'ore alla sera, mi viene anche Marco, anche se non peschi, ma... giusto così per uscire un po', ci prendiamo due panini come facevamo prima, no? Natalino e Gianni, due berrette, capito? Dovremmo un termosio di caffè, giusto così per passare un paio d'ore e andiamo, che problema c'è? Infatti, almeno ci divertivamo, ragazzi. Tanto la canna già te la armo io e te la faccio io il discorso del galleggiante, cazzo, come ti lo vedi da su? E dopo ti senti che con quello lì ti diverti. Poi non bisogna mettere ami piccolissimi, bisogna mettere, no, non bisogna eccedere con gli ami, perché quelli grandi servono per pescare a fondo. Beh certo, no, a pescare già sono buoni, e magari a armare, a fare i nodi, non c'è vero, capito? Quelle cose lì, basta ci siamo Gianni, ti ricordo, faceva sempre Gianni, tu che era zia, io no, non ci vedo. Non ci vedo, non riesco a buvare, dai, da tanti anni non ci vado. E quando andavamo con Gianni, sono più andato, con Gianni, Franco, Luca, non ci sono più andato. Su bocco di Franco si è ritirato come a te, no Franco a pescare, bravo, capito? Ah, vabbè. E beh Marco, è arrivata la pappa tua? No, fra un po', dai, non subito perché sennò non sto al baracchino. Quindi è la biocco tanto, oggi ero molto sonnolento di mattina, di pomeriggio, proprio ero, non lo so. E poi sono andato a ritoccare una chiave per mamma, no? È presente Mura Giuseppe via Napoli, quello che fa le chiavi di ogni tipo, e si è trasferito purtroppo, come si dice, in piazza Salvatore Ruggiero, proprio in mezzo al traffico. Non ci si può fermare in nessun modo con la macchina, non c'è posto, puoi entrarci in traffico. Invece via Napoli, bene o male, riuscivo a fermarmi lì, in doppia fila, le macchine ci passavano lo stesso. Si è messo proprio in mezzo al traffico, va in ora buona. Io sono andato a poco a farmi fare il telecomando nuovo al cancello, perché si era inceppato, ha cambiato la batteria, poi mi ha rimagnetizzato la piastrina, fa tutto. Marco, che parcheggio lì? Oggi a Napoli o giri per via Coso, via Tiglio di Fieno, via Turati, quelle zone lì, parcheggio e vai a piedi. Io sono andato in moto, ecco perché la moto è molto utile in certi casi, capito? Io sono andato con un motorino e ha fatto un bel negozio, quello là era piccolo, Marco, me l'ha detto il figlio, ci conosciamo. Qua c'è tutte le manutenzioni lui del... dei cosi, dei cancelletti, delle cose, cambia bussolotti, cambia tutto lui, capito? Quando si rompe, lo chiamano, viene, porta il bussolotto nuovo, lo cambia. Ma ha detto che là non ci stavamo più, troppo piccolo, una vita lì, capito? Quindi hanno comprato quel locale lì, è loro. E cosa vuoi fare? Ho visto l'altro giorno, sono andato io, era pieno, era buco, niente. Quindi bisogna andare o a piedi o... oppure cercare posteggio, ma se ti devi fermare lì c'è l'aiuola, in mezzo, un attimino, 5 minuti, ti fermi, metti le 4 frecce e si abbiglia le luci. E lì era piena di macchine proprio anche lì in mezzo, lo vedete tutti. Poi andando verso Via Dante, in quella via, no? Anche nel raggio di 200 metri non c'era un parcheggio, a dire uno, una cosa allucinante. Infatti ho detto, ma mi dispiace, lì si va un tram o in moto. Lo sai, quindi la sera a 7 ti porta lì, fai un pezzettino a piedi e poi puoi tornare con lo stesso tram, tanto il biglietto dura 90 minuti. Oppure in moto, ma la moto è sempre ferma, quindi e rimarrà ferma per sempre, credo, quella moto. Un peccato, vieni a far vedere questa moto. Vediamo, la fai vedere, perché ho detto mia figlia sta cercando un 125. Non so, un peccato, è la moto anche d'inverno, se non sta piovendo ti copre, qualche commissione la fai, capito, ma i guanti, la fai, è molto utile, sempre utile la moto, io ce l'ho sempre a portata di mano, adesso la grande, sino a quando si può usare, dopodiché la metto in garage. Capito? Ma la piccola la tengo sempre sotto il porticato perché è sempre utile. Capito mio? E vabbè. Avanti, Natali. Hai ragione, io le mani mi dovevo tagliare prima di prenderla, che avevo bisogno di soldi, se no non avevo fatto la notte. Carina. Io anche la spesa andavo a fare. Nella pedana ci stava la cassa dell'acqua, per esempio, qualsiasi cosa dovevo fare andavo in moto, in macchina non educavo, perché con la macchina a casa non trovi parcheggio, hai tanti problemi. Ma quella tua era una moto, il Burgo, ma stai dicendo 650, bella la moto. Bella era, sì, anch'io, il motorino, perché l'altra, beh no, ci sta, un po' in leva, era buona, te lo sabato io. Il motorino, quando vado a prendere l'acqua, anche i due cartoni li mettono sopra l'altro, ci stanno nella pedanina, capito? Qualche cosetta magari sotto la sella, se poi è una busta, se è più di una busta la prendo la macchina, capito? Chi è che vuole entrare? Avanti, Giulio, tu sei, lo sento qualcuno sotto, li prendi l'altro. Eia, no, non ho sentito nulla io sotto. Natalino, appena sono entrato, stava dicendo del parcheggio, palazzi nuovi, dimmi Natalino, che forse prima c'era più parcheggio e poi non c'era stato meno, ho sentito la parola palazzi nuovi. No, stavo dicendo che la moto non era il Burgman, riferito a Claudio, era quella 50 che avevo, aspetta come si chiamava, lo Scarabeo avevo, 450 era. Guarda, me ne ha tolto da tante situazioni, perché qua parcheggi non ce n'è, è un macello. Io quando avevo la moto usavo solo la moto, macchina non idratavo, per fare le commissioni, la mano destra era. È vero, parole sante. Io se la vinci anche 50 mi sarei accontentato, ma perché ci stava quello Scarabeo della Puglia era. Anche la cassa dell'acqua, poi avevo il portapà e mi potevo mettere delle cosette lì nel portapà qui oltre al casco, capito? Era troppo doga. Ma infatti uno scooterino chi ce l'ha sotto, io lo stavo per dare perché ho detto, ma cosa mi fa? No, lascialo stare. Una te la paghi tu, la circolazione, una me la pago io. Infatti quella del motorino la pagherei, capito? Però ho voluto tenerlo proprio per fare le commissioni, per gli spostamenti, lì a volte deve andare in banca, deve fare spostamenti, eccetera, e usa il motorino, capito? Ma Marco ce l'ha, so che anche nuova, bella, 125. Un peccato, Marco, vedi la mamma doia, fai il sacrificio, mettila a posto questa moto. È importante avere una moto, capito? A voi sia una moto d'epoca, basta che cammini, però una moto ci vuole sempre in città, perché se c'è traffico devi fare commissione al centro, voglio vedere come fai. Lo so, naturalmente lì presa dalla piaggia, usata, c'è la trasmissione da rifare, si sente. Quella lì diceva era perfetta, non è perfetta. Sicuramente c'è i rulli da cambiare o la cinghia o tutte e due. Insomma, c'è da rifare la trasmissione, quindi non può essere venduta. Lo so, vabbè, spettava anche a me però conservare soldi e contribuire a pagare l'assicurazione, fare la revisione, capito? L'assicurazione pesa, mannaggia. Perché io facevo un bel di roba e motta, adesso vedi, anche andando lì a fare, a ritoccare la chiave, sarei andato in un attimo, l'avrei messo ovunque, c'era una moto anche lì, uno scooterino parcheggiato, avrei fatto and e torre, avrei fatto in fretta, invece con la macchina è un incubo. Poi da quando in quella zona lì hanno levato via l'Italia anche i parcheggi, proprio roba, bisogna essere proprio figli di nessuno per fare una cosa del genere. E dillo allo sindaco, mi ha fatto un poco di casino. No vabbè, ma io sono capitato, sono andato anche in macchina con la piccola, con la 600, e mi sono messo un attimino con le quattro frecce nelle strisce davanti al tabacchino lì, capito? Le strisce pedonali, traverso un attimino, quattro frecce, sono entrato e uscito 5 minuti. Se arriva il vigile al limite ti fischia e te ne sei andendo. Ma ti dovevi fermare, cazzo, boh. Quando fischia Perché ho visto che molti non stanno più fischiando, come vedono cosa è, aprono il libretto e cominciano a scrivere, capito? Una volta uno me l'aveva detto, noi fischiare lo facciamo per cortesia, così, nei confronti dell'automobilista, ma non siamo tenuti. Qui ha detto che gli altri da come? A fare multe. La grande del video Gianni Sera, Sassari, Gosio, Ciambatti. Sono 10 motociclisti in più, arrivate le moto nuove anche, penso che vabbè, però anche quello da fare, no, devono fischiare loro prima di scrivere, ma vedete, per cortesia lo fai, tu devi fischiare, pausa per aereo brucia lui, qui si fa bidetia. No, veramente io quando ero alla rotonda, che l'ho messa in divieto, sono arrivati due motociclisti, una donna e un uomo, come hanno visto due macchine in quel divieto, stavano già aprendo il libretto e boh, fischiando manco per le balle. Motociclisti secondo me non ne hanno nemmeno fischietto. Ma le macchine erano parcheggiate in divieto di sosta? Eia, hanno aggiunto un divieto di sosta proprio di fronte proprio di fronte all'ingresso dell'ex ristorante Ernesto. Prima da lì fino alla zona con le siepi non era divieto, adesso hanno messo il divieto anche lì, capito? E non hanno fischiato, proprio mi sono messo a correre io per bloccarli, se no stavano già scrivendo. L'hanno l'ordine di fare i soldi, capito? Soldi farabutti, non loro però. Chi glielo ordina, capito? Il sindaco. Se lo faccia la maialetto. E più che il sindaco delibera e dà incarico all'assessore all'urbanistica, quindi. E poi c'è anche quello che comanda l'assessore ai vigili urbani, cos'è? Boh. Anni fa era Cau. Manfredi, che mi pare sia molto burro da poco, Manfredi Cauer, capito? Quindi, e vabbè, il cassa deve fare il comando, e non è che può, capito? Non è che può cercare uscire, il cassa deve fare. Che ci sia molta gente che pensa di essere in campagna, questo è vero, perché se dovessero passare qua in via Lamalfa, 3% che molti la prendono a volta, perché ci sono due incroci che scendono da via Milis, due, proprio in prossimità dell'incrocio è sempre pieno di macchine, tutti giri da una parte e dall'altra, non vedi un cacchio, niente, nulla, ci sono macchine nello stallo degli invalidi, no, negli scivoli del marciapiede dove salgono gli invalidi, lì non ti puoi fermare, anche se non c'è cartello, non ti puoi fermare lì. essere una multa più 5 punti dalla patente, ok? Ed è sempre così, sempre così. Io fuori non parcheggio mai perché c'ho due posti auto, quindi non è che mi interessi più di tanto. Però sto dicendo che in via Romano faccio da fare i quattrini, iniziare lassù, da via Vanna Basso a scendere, ma quattrini a virgola non vi passano mai, mai, mai, mai. Eia. Ma poi non dava fastidio lì nemmeno, lo sai, la macchina. Non dava alcun fastidio, però c'è il divieto di sosta, in fermata loro devono batter cassa e quindi volevano. Peraltro c'era una ragazza che io conoscevo, credo, all'istituto d'arte, almeno credo fosse lì. È una ragazza che ha uno sguardo particolare, è diventata vigilessa, non mi sa proprio lì. Oh, no, comunque ho sbagliato, scusa Claudio, non erano motociclisti, erano la macchina regolare di servizio che fa servizio a Platamona. Giusto, erano pantaloncini corti, erano sia maschio che femmina. Anche lì via Vanna Basso, dove c'è il Conti, no? Quindi da casa di Antonio verso il bar del quadrato, lì a destra non si può posteggiare. Lì ogni tanto passano i motociclisti e fate di man bassa, si posteggia a sinistra dal praticamente piazza Le Segni a salire, capito? Dove ci sono le strisce tratteggiate per parcheggiare macchine. L'altro giorno ero entrato al lavoro e sono passato lì, qui erano minimo 20 macchine, tutte con la multa nel parabrezza, tutte. Comunque quello di Platamona io non me ne ero accorto del divieto. Me l'hanno detto loro. Lì non c'era il divieto, l'hanno aggiunto dopo, guarda a che punto sono arrivati. È ridicolo. Oh, forse l'hanno fatto per i tram che adesso anziché alla rotonda si fermano lì. Quasi poco dopo l'ingresso delle. E sai lì quando c'è una macchina parcheggiata si può fare. È stretto, non ci passano le macchine che circolano. Penso l'abbia fatto per quello. E vabbè. Però io se avessi visto il divieto non mi sarei messo, io non è che lo faccio apposta. Non mi sarei messo e boh. E ormai tutti i divieti mi hanno rotto le scatole. Questo di fare troppo pedonale. Lo stesso al quarto pettine, tutto, mamma mia, tutto chiuso, hanno nella rotatoria dove arrivavi al mare, non lo so che cosa c'hanno in testa, però quello è area di sorso mi pare, quarto e quinto mi pare, tutto quello che c'è a destra della rotonda è roba di sorso. Non lo so, non lo saccio, le penne Natali. Quindi lo bescio l'hai dato, Marca sa già l'hai fatto la concetta, nuda, non è legato manco. No, è lui che te l'ha detto. Ha mangiato la prima volta e poi adesso ha preso e gli ha dato via una mica sua se gli ha preso. Ti blocco. Pesce fresco, buono, ma cos'era la porzione? Mezzi maturi, guarda, erano veramente belli. Non ci ho pensato se non li facevo la foto. E urlavano un pieno, quindi era. Si è affissata che andava lì. Allora, la prossima volta avvisami invece di dare i telefoni, capito? Io passo rientrando al lavoro e mi riprendo. Che a me il pesce è così fresco, appena pescato mi piace. Poi quel tipo di pesce lo puoi fare anche al forno, con due patate, lo puoi fare in tegame, capito? Lo puoi fare in tante cose. Ma ti piace lo pesce, va? Eia, eia, ti mi piace lo pesce, mi si era un buco. Se telefonate te la privata aperta, se per la qualche altro. Vabbè, pensaci la prossima volta. Mi piace il pesce, mi piace Marco, a te non ti piace il pesce? No, me lo sto facendo dire mamma, perché spesso e volentieri fa pesce. Ogni tre giorni mi vede il pesce, basta adesso. Sì, guarda, soprattutto però merluzzo, nasello, tutta roba con poche spine. Pesce bianco, pangasio, platessa anche, non mi ricordo la platessa che bestia è, comunque è buona. Menuti, io quello suggerato a tronchetti, quelle code, e compro 3 o 4, ce l'ho sempre in frigge. quello lo bollisci un pochino, non c'ha spine, è spinato, e lo fai con pomodoro fresco, cipolla, una pera di rucola se ce l'hai, capito? Magari ci metti due sciugli e c'è una bella insalata, una bella cosa. E poi ogni tanto lo do anche a Filippo, comunque te lo bollisco, glielo metto con la pasta, un boccettino, un cucchiaino di olio crudo, le piace un bel lui, un pizzino con la rete, capito? Adesso guarda, poco fa, cucando sotto, in divisione, in divisione il computer è spento, a volte si mette lì quando c'è freddo, se il computer è acceso, ma è spento, è in kiwi, dove sono? 7:10, c'era 7:10, oh ieri mi sono etichettato alle 7:30, sto facendo cosa? Sono uscito che non è 8, era già buio, minchia. Eh sì, alle 7:30 è già travantato il sole, mi pare, o forse anche prima, guarda, vedo la luce rossa del sole che passa qua, è proprio arancione, mi. Purtroppo stanno accorciando le giornate, ma non purtroppo, è lo stesso, poi cambieranno l'ora, tra un mesetto, un mese prossimo forse, com'è, metteranno un'ora indietro, un'ora avanti, no, un'ora avanti, cioè il buio che troverai, che ne so, fra un mese alle 6 lo troverai alle 5. Tutto le balle. Io sto uscendo al buio la mattina, è buio, sto uscendo alle 6 ed è buio, infatti non vedo che cambi l'orario per avere un po' più di luce, perché guardate adesso, se io faccio San Camillo non si vede una minchia, buia quella strada stretta, non è neanche tracciata, nuda, fai i segamenti sempre in mezzo carriera, a volte arrivi le macchine, sembra che ti stiano venendo addosso, ma per accorciare un po', perché se fai la booty booty dall'altra parte è molto più lunga, quindi lo salgo da lì. Vabbè, io ci metti anche. Cambierà il tempo, adesso quando cambia l'orario intanto entro alle 7:30, quindi 7:30, 2:10, adesso dalle 7 alle 1:25, 13:25. Poi sarà dalle 7:30, quindi mi alzo anche più tardi, sino alle 2:10. Vabbè, 2:10, alle 2:10 gioco a casa, finalmente. Si riprende il tran tran quotidiano, che mamma mia come sto, Natalie. Mamma mia come sto. Cazzo, è dal 2 ottobre, stamani mi ha ripetuto una mail al lavoro, l'ufficio lì a Trinità, arrivo da me dal 2 di ottobre, mi hanno affibbiato il burroso, avevo preso, tanto non lascio da fare, a girare a destra e a sinistra, tanto ciò, il Vidalba pure mi hanno dato, lui mi stavo leggendo adesso di me che mi è arrivato, anche Vidalba, quindi non più Badesi, Trinità, Padoletta, Marinetta, Isola Rossa, ma Vidalba, quindi Osilo, Vidalba, Osilo, San Lorenzo, San Lorenzo, Valle Santa Vittoria, che ti somma? Sì, a tutti i impianti me ne vado da controllare. Ehi, naturalmente Osilo, però per Vidalba che... Invece di partire da Sorso, parto da qua, quindi faccio Osilo, scendendo faccio San Lorenzo, no, scendendo da Osilo c'è prima Santa Vittoria, San Lorenzo, San Lorenzo Valle, poi faccio Senoli dalla Giorra e ti varo da Gosso, dalla strada quella lì di Montentuscio. Da Senoli e faccio poi dal bivio di Cermarizza. Mamma mia come sto, e Vidalba, a 5 impianti, roba da matti. Ma senza quelli che stai facendo oppure ti cambiano di posto? Oltre quelli che ho già di controllo giornaliero, perché io facevo prima, ma lo so, so prendermi la macchina in servizio, prima ce l'avevo qua a casa, ma avevo rotto i ball, tutte le sere, pari sempre un reperibile. Allora, se ne sorso, quindi la macchina è lì, intervengono da un'altra zona se c'è qualche problema. Facevo da sorso praticamente, primo impianto Badesi, poi facevo lì i controlli al sollevamento della zona industriale che c'è Badesi, a parte vabbè Montigioni a Zaguta che sono lì, ma sono due sollevamenti piccolini che mandano tutto il reflo all'impianto di Badesi, e poi si arriva a Trinità, impianto di Trinità da Gurtu, e poi scendevo lì a Paduleda dove c'è l'Acqua Fantasy, e poi la Marinetta impianto, che è quello praticamente che gestisce tutto il villaggio della Marinetta e i due alberghi, Torre Ruglia e la Marinetta, sempre del gruppo Delfina, e poi i due sollevamenti dell'isola Rosa Forte. E boh. Con questi mi devo organizzare, con questi devo fare il giro di Portobello, qualche idea. Mi sono scelto i denti. Avanti Marco. Eia, sono senza parole. Ti vogliono far schiattare proprio, così non ti danno pensione. E se pensano che io mollo, non mollo. E il proverbio dice tutti siamo utili ma nessuno è indispensabile. Mi sa che indispensabile c'è veramente. No, hanno spostato, è andato uno in pensione per la zona di Ussi, e l'altro l'hanno dovuto spostare a Ottava, all'impianto di Ottava, quindi sicuramente c'è copertura, sono forse provvisoria, e quindi mi hanno fatto il lavoro che faccio io, è quello, il controllo degli impianti, quindi vabbè, oggi ho certo il controllo e quindi non ho problemi nel caso, però un impianto di merda, perché questo impianto è praticamente sotto il campo sportivo. Quando d'inverno piove molto, si dice la condotta è in ingresso, ma è talmente piccola che l'acqua che scende dal campo sportivo scende a cascata, cazzo si allaga tutto l'impianto. Io l'ho già gestito 10 anni fa, una volta manco nel cancello potevo entrare, dico cazzo che è una vacca. Col gommone. Dopo chiamo il mio collega, quello che è in coppia con me, insomma ci alterniamo, se gli è arrivato anche lui, lei mi sarà incazzato, non so come Cagliaritano, vive a Santa Maria Covina, non è Cagliaritano, starà bestemmiando in Cagliaritano. Sì. A voi mando un messaggio a vedere. Oh Mariuccia, arrivi del Deo, messaggio, le mail. Incamia tu a Zadita che ti c'avò sto muro. Sì. Ma a pranzo siamo andati degli ospiti dei. E lui c'è il rientro, infatti mi ha accompagnato alle 3 a casa, lui è rientrato. Facciamo un rientro settimanale, il venerdì non per uno. Ma basta cazzo, non mi fate mangiare, fisci, mi dite un poco di cazzate, per carità di Dio. Poi c'ha il cognome, sai come si chiama il cognome? Giglio, quindi io lo chiamo Schettino. Oh Schettino, non hai fatto un poco di muschi, anda a casino, lui è Schettino. Schettino, due cazzo. Ma poi Schettino era andato o no in galera, vi risulta? Non so, no, so che l'avevano condannato anche in appello e poi in Cassazione, però non lo so, so che è radiato dall'albo dei comandanti, praticamente non può più navigare, penso che abbiamo ritirato il libretto di navigazione. Condannato. La condanna c'è perché lui non era in Francia, non c'è niente da fare. E poi è stato condannato anche perché è il primo che ha abbandonato la nave, se la metti che la registrazione dell'ammiraglio. Che forte quella stazione. Ma non me ne frega, ritorni a bordo immediatamente, un ordine. No, mi radio della capitaneria di Livorno, del comando di Livorno, praticamente non della capitaneria, alla capitaneria di Livorno io, quando ero a Livorno, perché ho imbarcato su Vittorio Veneto, c'era un capitano di fregata, poi si è diventato ammiraglio un giorno, magari sempre un Mattesi. Vado a bordo, cazzo! Chi è? Aveva chiesto Schettino. Ma ci sono dei morti. Lei me lo deve dire se ci sono dei morti. Ecco, minchia, con la registrazione le lacrime faceva scendere. Le lacrime faceva scendere. Quando sei cattato con l'ammiraglio, come si chiamava? Non me lo ammetto. Tanto che l'ha preso a voci. Ehi, Sugar, ma lei dov'è? Io sono nel tuo immediatamente a bordo. È un ordine. Che urla? Intanto qua. Cosa ti vuol dire? Io avevo saputo che quello lì, che aveva preso a voce Schettino, era stato come tipo degradato, o l'avevano messo in una cosa minore, lo sai. L'Italia è un paese canaglia, perché quando tu fai il tuo dovere, anziché premiarti, capito, ti puniscono. Io so che l'avevano come abbassato di grado, trasferito a, una, a un ruolo minore, praticamente. È uno scandalo, Sì, come messaggio che mi ha dato te lo confermo, sì. Vabbè, ovviamente una puta sai. Lui praticamente, prima della sentenza, dell'ultima sentenza, era ancora in... però era già... allontanato dai pubblici uffici, una cosa del genere, cioè aveva il libretto di navigazione, così si dice, bloccato praticamente, non poteva più imbarcare, capito? E avere quel grado che lui aveva, perché prima era un primo ufficiale, capito? È un primo ufficiale. E poi non so cosa è successo, saranno condannato a vero. Ma io credo di sì, perché poi le notizie le danno, non le danno, le danno mezze storpiate ai giornalisti, che sono un'altra, purtroppo anche loro hanno le loro, peccano un po', capito? Dovrebbe essere più trasparente il diritto di cronaca, senza inventarsi di cose. Sì, vabbè, ma una persona del genere che ha fatto una cosa del genere, che te lo già arrivo qua. Tu vai ancora a andare? No, vai a casino, vai. Per carità, anda. Riprendi da lì. Veglia, a quello lì era un comandante della capitaneria di porto, l'avevano trasferito a quello, poveraccio. Oltre ad aver fatto il suo dovere, se no a quel colonnello della finanza, ma non si cosa l'hanno fatto. Aveva cubicilità, se la metà è finita, ma non occuparsi. Ah, è vero Marco, è vero. A quell'ammiraglio lì, l'hanno trasferito da Livorno dopo questa cosa, capito? Perché non so cosa è successo. Cioè non doveva fare quello che ha fatto, non ci avevo capito un cacchio veramente. Secondo me il tuo solo vero l'ha fatto. E cosa gli puoi dire? A un capitano, caspita, di una nave che scappa quando c'è gente anche che sta morendo lì o che sono in pericolo. Più che pigliare la voce così non poteva fare altro. Sì, l'Italia è un paese canaglia, amici, chi fa il suo dovere e anzi viene ripreso, capito? È un paese schifoso l'Italia. Non è solo l'Italia, però vedo che anche quella storia famosa, vecchia, di 20 anni o di 30 anni, la strategia di Ustica, non hanno mai chiarito la cosa, tutto segreto, tutto... È un paese poco trasparente, capito? È un paese canaglia, proprio come altro che gli arabi. L'Italia è un paese canaglia contro i suoi stessi cittadini, capito? Ma infatti c'è l'uomo che fa solo bene, va punito, capito? Quello che invece non fa solo bene, quelli sono quelli che continueranno a comandare da sempre. Purtroppo hai ragione tu, è una cosa proprio allucinante, vergognosa. Sì, me lo ricordo, una volta ho sentito quell'ammiraglio, ero uscito anche a Canale 5, però non si sono capite le vere motivazioni, assolutamente. Non è mai stato un Antalino per far sì che non se ne occupasse del vero scandalo che è successo su quella nave, capite? È come se vi ricordate la Movie Prince quando è uscita a Livorno, se vi ricordate bene, fate memoria perché ero a Cagliari in quegli anni alla Saras, e praticamente uscita da Livorno senza il comandante, c'era il pilota automatico, perché c'era la finale dei mondiali dell'Italia, quindi erano tutti guardando la TV, la nazionale italiana, e la nave uscita dal porto col pilota automatico, capito? Radar acceso, tutto acceso, a 100 metri dall'uscita del porto c'era la petroliera ferma, il radar, che stava aspettando l'ok per entrare, e si è cutennato, capito? E ha preso fuoco immediatamente. Ehi, roba da pazzi, roba da pazzi. Capito? È bello che Schettino, adesso tornando indietro a Schettino, anzi lui si lodava perché aveva evitato l'affondamento e aveva portato la nave in secca, capito? Per evitare l'affondamento. E lui si stava lodando che non andava punito per quello, che aveva anzi salvato la nave da peggiori conseguenze. Forse un po'... magari quello sì, forse è riuscito a non farla affondare del tutto, ma lui è scappato dalla nave, se n'è andato, poi va a chiedere a quel tipo, ci sono morti? E quello, ehi, me lo deve dire, ci sono morti. Cazzo di aria, l'ha fatto incazzare, quello era il comandante, non era un capitano lì. Ed era il comandante della capitaneria, cazzo l'ha pigliato a bordi. Torni a bordo, cazzo! Torni a bordo? Non ha detto poco che Barlacci, forse pagissimo il danese peggio. Subito gli americani sono andati a dire, sentendo la registrazione, che quello lì della capitaneria era un isterico. E cosa gli devi dire? Bravo, bravo, abbandona la nave. Vattene pure, lasciali affondare, lasciali affogare. Salvati tu e fregatene degli altri. E comunque sono stati 30, più di 30 morti. Non mi ricordo io. Me li hanno ripescati dopo anche molto tempo lì, rischiando anche la loro vita, perché metti che se la nave avesse uno smottamento di terreno, lo scoglio, e si ribaltava ancora, te ne immagini, si sarebbero rimasti sub e bloccati sotto. Allora, se stai attento ti faccio sentire la canzone che gli ha fatto Napoletano qua del coso, che me l'ha mandata davanti a Rosi, però il bar del quadrato. Un napoletano qua del mercatino, ok? Via. Non alzare troppo il volume, sennò distorce. No, guarda, l'ho abbassato ancora. L'ho abbassato ancora, poi mi dici se si sente. Aspetta. Schettino Francesco, se vado in galera chissà quando esco, tutta colpa della Moldava, gliel'ho chiesto ma non me la dava, l'ho baciata, gli ho detto ti voglio, cercavo la grotta, gli ho preso lo scotch. La conosco questa, io la conosco, l'ho già sentita in rete, da qualche parte me l'ho sentita. Don Napoletano, ambulante, qua di Sassari. Via. Oi oi oi. Un po' di languorino, ma se posso resistere rimango fino alle 8, dai. Riesci a vedere? 7:30, 7:32, dai. Il sole credo che sia calato. Sì, non vedo più luce del sole. Deve essere calato in questo momento, tramontato adesso, eh. Vai alla bolletta, così ce l'hai la luce. Via. Ahi mia, buonasera, chi è? Buonasera. Ciao, che è Claudio, ben ascoltato. Come è stato? Perché tu ce l'hai tanto. con questa cosa. Mi ero acceso così, questo sì. Avanti a te, Claudio. Ciao Fra, buonasera, ben ascoltato. Tutto bene? Tutto a posto, Fra. Tutto bene, così lo sto andando. Vado in bagno un attimo. Mi cola il naso. Guarda che ti ho mandato una foto, Marco, se ti piace. E beh, Fra, allora, che si dice? Che si dice, Fra. Sta prendendo, Ho uscito stamattina, sono uscito, la buona. Faccio oggi domani il riporto, poi vediamo. Domenica di nuovo di mattina, battagliamo. Domani che gioco in Manzano Bulio, la regia di lui, quindi ancora dobbiamo battagliare. Sì, io lo sto aspettando, se ci decido, così, se mando in appa. È la stessa cosa, ti dico. Io ne ho ancora un po' più di te, però piano piano già passa. Cosa vuoi fare? Pazienza ci vuole. Piano, Fra. Vedrai che passa. Tanto gli anni volano. Non so, noi fa cambiarsi la figlia. Ah, Fra, stiamo solo a fare picco. Il mio lavoro già lo conosci. Io sto molto in macchina, sale e scendi. Però non è quello il problema. A volte sto fermo, quando sono lavori. Non è un lavoro che ho mai preso ho preso sempre con molta tranquillità, molta serenità, quindi no, me la fotti nulla. Piano piano toccherà anche a me. Però voglio andare col massimo, perché così me la godo tutta la pressione, tutto il disagio travagliato, miratevi, perché posso anche andare via da adesso, l'azienda me l'ha già chiesto, ma non mi interessa. Voglio rimanere ancora, tanto a casa cosa vuoi fare? Non ho già altri mesi, quindi né bar né nulla, perciò stare buttato dentro casa è meglio andare a lavorare, tanto travaglio solo Mazzano, quindi dalle 7 alle 2, perciò la mattina è impegnata, pomeriggio mi riposo e poi sono a casa a riposarmi, KK, vediamo se siete a Natalino. Natali, a tutti i fuggiti, so. Va bene. Sì, Claudio, purtroppo è così, dai. No, io come mi chiamano me ne vado più. Io sto aspettando, dovrebbe essere al mese prossimo. Se mi chiamano se mi conviene, prendo, faccio le valigette me ne vado. È molto veloce. Continuare con il tuo gioco. Mi impegna il tempo, Claudio. Noi che io vado giù a braccio. Anche le camere affrettate, no? Sì, vabbè, anche quello già è vero, no, impegnarmi con altre cose no, non mi interessa, preferisco riposarmi e poi vediamo, capito? No, ma anche a me, non c'è stata la convenienza, l'offerta a me me l'ha fatta vedere. Praticamente mi dava l'80%, però netto, no, non mi conviene, per 2 anni sino a arrivare ai 42 anni di servizio, capito? 42 anni e 6 mesi, mancano 2 anni e 6 mesi, a giugno arrivi nei 40, l'anno che fai, quindi. Non ci siamo accordati in altre cose, capito? E allora mi rivolto 2 anni e mezzo, si abbiglia gli occhi. E così non devo chiedere niente a nessuno, ma vado con la retributiva e con la contributiva a buco. E si impicca i litiganti. No, ma stai attento lì, lì c'è, a volte c'è anche la fregatura, perché un mio amico è amico anche collega, si è partito così come hai detto tu, l'80%, invece da cui lo grimbanno l'ha pigliato, così grimbanno ha cominciato a parare, ha cominciato, e ultimo, confusi perché sono accettato perché mi sono informato, se ne accatto, ma Tokyo, proprio come stai dicendo tu, le stesse parole. Tokyo che i primi anni, il primo anno può andare bene, poi inizia a calare perché ci sono altre cose di mezzo, capito? E alla fine mi dice Santa Battente, no? Io mi voglio andare con lo stipendio mio, capito? Perché ho lavorato, ho dato abbastanza, come per te, naturalmente. Quindi, ho avuto a 40 anni, 42 anni, a pigliare intemperie, cazzo di chi ce l'ho, quindi ce l'ho io, la cosa, a pigliare la medaglia della missione, no, no, no. E quindi diciamo che il 98% non ho accettato, mi ha dato, mi va di una battuta, allora vuole andare, no, oggi andare a Lupo, lasciatemi la testa in santa pace, perché c'è un'altra gente da sistemare, capito? Ma già esiste la gente. Aspetta, aspetta, sono sano e vegeto, grazie a Dio, e quindi ho voglia di fare, di lavorare, ti ripeto, ribadisco che non so che fare picco, già lo sai quello che faccio, quindi continuo a farlo con dignità, orgoglio e voglia di fare soprattutto. Assolutamente. Sì, i colleghi sono della mia zona, mi non andare via mica, mi non mollare via. Mamma mia, se come che ci mandano qua, vai, non andiamo dal lupo, stai gireno. Che schifo! Largo e giovane, quella lì ci aveva mandato a tirare fuori i contributi perché si voleva mandare in via con gente per prendere altra gente nuova, ma tutto al ragazzo, voleva assumere questo. Poi ci ha mandato tutto quanto, ha detto, dice, ma se è andato in mobilità, dice, che è accompagnata alla pensione, no? Prima di detto, accompagnata alla pensione, cosa significa? Significa che tu mi dai lo stipendio ogni mese sempre lo stesso, in tutti gli anni, se ti sono per dire 2 anni, tu dai per 2 anni o 3 anni, tu dai sempre lo stesso. Dice certo, invece se non sei madre, dice, mica non è vero, il primo anno ti danno l'80%, il secondo anno mi sembra che il 50%, poi abbassa al 30%. Alla Russia, dice, lo fanno nel dito. Sì, è così. Ti ha detto larga ai giovani, ebbene sia, larga ai giovani, ma mi pare che i giovani non li buca canali travagliati. Kappa, eia. No, ma è così, beh, io ho la mia esperienza anche con chi mi sta a fianco, o fra, non per vantarmi, però c'ho animo e cuore nel lavoro, nel senso che se uno dà bisogna che le dai, se uno non dà allora la ribiglia a colpi di mazza, però grazie a Dio la squadra che ho io sono tutte persone dove lavoro io, perché non è squadra mia, dove sono io lì, sono tutte persone che in gamba, che lavorano, volenterose, non, quindi non c'è mai stato né modo di bisticciare, niente. Quando si collabora, quindi sto bene io, stanno bene loro. Però in altri contesti è chiaro che il secondo che ti mandano, come ti hanno mandato nella zona di Olbia, un geometra ex Porto Torres, per capirci, già mai capito della T. Le urbe, ma ti toclami voi, vai lì, lasciate in chivi, no, ma io non ce la voglio più con quello, peggio battete, se fate 3 figli a urbe, avanti non devi. Per carità, mi è sembrato di sentire un gatto, vediamo se è lui, Massimiliano, sei tu? Eia, le veci in casa, le giovani a travagliare, buonasera a tutti. Quindi le brucia il culo a casa? Non lo so così ti bruciano in culo a te, No, li brucia il guru, dici che non fate le nuda a casa. E allora, ormai i vecchiacci, se si hanno fatto i loro anni di cose, di contributi, chi si ricorda in casa? Ciao Fra, buonasera. Buonasera, ciao. Sì, io concordo con te, Massimiliano, concordo con te. Così, solo che magari ce ne andiamo noi, ce ne andiamo a Massimiliano e non mi pigliano una pecca, niente. Vabbè, intanto bisogna iniziare, cioè giustamente a chi arriva all'età e ai contributi, già iniziare a buttarci lì fuori da voi, magari che arriverà qualche giovane, è casino, è un casino fra 42 anni e 8 mesi sono un bel, ma un bel, un bel, un bel. Lo so, lo so. Va bene, dai ragazzi, io me ne vado perché devo andare alle 8, ho un rettino fisso giù, ciò. E ci sentiamo, dai. Ma forse è tutto, mi ha fatto piacere ascoltarvi. Anche che non è molto affetto, ma che è molto luce. Avanti a te Claudio, fai girare. Buona serata a tutti, dai. Correte per me. Ciao Fra, grazie per essere entrato a salutare, dai, quando vuoi siamo qua, non c'è problema. Ci sentiamo alle prossime, dai, già teniamoci aggiornati, io e altra gente non ho ancora 2 anni e mezzo, tu sei più grande di me e quindi vai prima, meglio così, dai. Ok, avanti a chi tocca. Marco, riprendi. Eia, ciao Massimiliano. Ho visto la foto, Claudio, Solo tu la potevi trovare. Ma chi te l'ha passata, Pomponio? Marco, sono rientrato, ero al telefono con mia zia, per cose famiglia mia telefonata. Riprendo io, dai, che saluto a Franco con la buona serata e buona pizza. Dai. Ciao Marco, ciao Natalino, non sapevo che ce l'avete anche voi, che ho acceso adesso. Buona pizzata, ciao Fra, riprendi la tariccia. Ciao. Ciao Massimiliano. Perché c'è questo segnalino piccolo? Non posso perché sennò succede il patatrac. Ah, a posto, va bene, già ti ascolto lo stesso, va. Va bene così. Avanti Marco, ciao, non ti ho salutato, scusa, ma non sapevo che ce l'avete anche voi, Stavo mangiando qualcosa. No, Claudio mi ha mandato una foto con un piedino nella scarpa, molto interessante. Lo vuoi vedere? Chi me l'ha mandato è da me. Ah, ecco. Allucinante, ma dove le trovate? Ah, mandali quello. Quello che ce l'ha sproporzionato, gonfia. Ma chissà che lei era tremendi. E la madonna che... Non ho mai visto una cosa del genere. Intanto Massimiliano mi manda queste cose carine. Ma niente, è in capotta. Ah, poi ci metto... Non me l'ho appoggiato dall'omi. La prima cosa mi arrivava un piedi. Ma gli metto il suo tumore appoggiatelo da noi. Cazzo da ridere, l'altro giorno l'ho fatta vedere a mia socia, la gente, mille scarpe di ballo di Gaia. Non rimengono da appoggiare i piccini, ma no, ramai. Ehi, ma te so c'è tu che... E tu che hai... Gaiette, vabbè. Ma papà si apprende quella roba là? Bocca, appena c'ho 2 minuti, là. Appena c'ho 2 minuti. Mamma, la mente in macchina, domani sono libero, mi dobbiamo un caffè. Io domani mattina sono a legna, fatelo conto. Devo trovare anche con Gigi, che le devo lasciare una radio, io l'ho portata stasera, proprio perché domani mattina sono, devo andare a legna col vecchietto. Vabbè, dai, sarà per la prossima. Dunque, ovviamente domenica, tanto io sono al lavoro, ma non fa. Vabbè, dai, settimana, già l'ho messa dentro la scatola, capito? Sto usando l'altra, io quella piccola, sempre con le MB più 5. Già va bene, ho fatto i giacciari più che sufficiente. Tratali, riprendi, tratali. Oh, yeah. Io ti ho imbarcato a Filippo a nonna, ma detto io sto facendo a fare due passi alla biglia di Lugani, vai, fuggiromi, ma ne tocco in radio ancora un pochetto, dai. E lì è andata l'amica con la scusa di buttare Lugani ancora a Torrà. Deve essere a trappata mai di vecchi. Meglio è andata lì, portateli una dentro casa, adesso non c'è lì a futtitini. E anche lì ha trappato la sorpresa, mi ripiglio una risottata e me la posi in coda e mi porto da caro, che andrò da 9 anni, perché io ho bisogno d'affetto. C'è quello che vuoi pigliare a Marco? Mamma mia! Marco, vai da Natalino che ha bisogno di affetto. Ah, guarda, io gli posso portare giusto un po' di affettato. No, che non sia salame, eh. Te l'abbia aggiunto, Natalì. E via. Guarda che sono anche molto navigato, eh. Ah, anche? Ho molta esperienza. Se c'è esperienza gli era quel burin pure due la volta, questo ha fatto Massimiliano. ma mi sa che ci vuole una scarpa piccola. Ma il guru d'acqua, siamo senza d'acqua. Se voi senza d'acqua ti dico questa infortunistica. Così quando te la monetente lo ti si ficcia un gormicione. No, la ce l'ha da salotto lui. Non si ficcia un gormicione con questa infortunistica. Oi. Bene, dai che devo finire di mangiare, vi ascolto. Sì, su quella vergogna, se c'è lì ascoltando la voce più bella della frequenza, che vergogna. Allora, Cristina, proprio a te l'immagine questo mare. Vuoi andare a farmi due lanci, Natalì? Al passetto se ne prende qualcosa? Io ho preso 14 farad. Ma lì al passetto? Non lo so dov'è questo passetto che stai dicendo tu. A posto d'ora. Dentro il porto, là. La faradose. All'uomo. Ascolta, non l'ho capito Massimiliano, c'avevo quel disturbo fondoscala. Corretto, sì, quel passetto, dentro il porto. Dove andavamo noi, Natalì, con Gianni, mi? No, mi sono fermato un attimino, sono andato bene. Dove andavamo noi con Gianni, finalmente, è diventato un peschereccio e si è attaccato tutta una ziota, puffa, in chi vede termini? No, da un'altra parte io sono andato, no, non ci vado lì. Poi è tutto inquinato, chi vi gatta. Al mare di fuori si è andato. Allora. Va bene. Quanto hai pigliato di 4 ore di Saraghi? Io ci ho pigliato 4 lati, dare uno spippero. Sì, vabbè, cosa entra? Puruisci andare bene, fai prima. Una volta siamo andati con Franco Califfo a peccare, non ho pigliato nulla. Lì al porto, allora era lì all'Aci, al Monoaci. Giornata fredda, ragazzi, di domenica mattina. Bacchino a Sambuca, mi bacio, pensa che li canni, figurati tu. Era invece per l'andettore la magattia, l'andettore a Sambuca. Si asciuga, mi bacio tutto. E adesso fa come facciamo? Si asciuga da qualcosa. Io che passiamo al mercato da Antonio Tarretto, vedo già va. Siamo passati e abbigliato due orate da lui e quelle là, mezza, non grandi, e due ne ci ho abbigliato io. Stiamo dietro, queste sono del mercato, non le avete comprate voi. Te ne accorgi, no? Vabbè, ma bisogna che conoscere il pesce. Natalì io dire di 14 saraghi, ma invece aveva pigliato 14 sparaglioni, cosa saraghi? Ah, Natalì non lo conosce, un pesce inteso, ci ha detto Massimiliano. Hai due erano i paraglioni, non erano i saraghi, mi. Natalì. Occla. Già ne hai visti quelli che ho preso le altre due volte che sono andato? E adesso le mando la foto a Massimiliano, così gli facciamo vedere nel piatto. Che ho visto che le ha messo a Facebook. Ma questi qua non ho fatto tempo a che si ravvino di prima, mi moglie. 14, non sto scherzando, ne ho perso pure. Ma a fondo o a galleggiante? A galleggiante. E allora lo sparaglione, Natalì. Come? Che era lo sparaglione? Ma cosa sparaglione? Mi azzara con cazzo si. Mi riconosco mi. Natalì, vada bravo. Sparaglioni sono qui. No. Che riconosco io, ma capisci? Noi erano i sparaglioni. Oh Massimiliano, ma come si fa a cambiare la luce al 48? A mettergli la molto colore, che non c'è, non mi piace. Che luce? Quella dei pulsanti, delle manopole. Vuoi che bisogna aprirlo? E che colore la vuoi? Non so. Magari blu. LED ne hai di quelli blu? Se c'hai LED di quelli blu. No, ce li ha Gigi qui. E allora ci vuole poco, sono 5 LED da cambiare. Mezz'ora di lavoro. va bene. Ah, bisogna farlo, che tu arancio non mi piace. Bisogna mettere quella blu, più intensa. E il coso invece, quello bisogna comprarlo, il coso dei canali blu, vero? Ma che io quello non so cambiare. E la luce dello Smith? Quella si mette due LED e una resistenza. Un LED e una resistenza. Sempre blu, uguale ai comandi. KB Osha. Vabbè, l'altro è mai uscito. Non mi piace arancio. Bruttino. Così mi metti anche il frontale, quello che mi hai dato tu. Uno di quelli lo scegliamo e me lo metti tu. Va bene, lì bisogna dirlo, a Santo Tigre. Se c'hai quelle palline, hai visto quelle palline che sbatte in terra e si accende rosso e blu, si prendono quei led, 5 ce ne vuole, allora aspetta, 5, 6, anche quella della spia Avi e la spia Tix puoi fare blu. Tutti, sono 4 interruttori e 4 potenziometri. 8 led blu ci vogliono, lascia perdere gli interruttori. 8 led. Vabbè, 8 led blu allora. K Priosa positivo, dai. Massimiliano. Bravi. Allora, l'Alan 48, scritto in lettere, insomma l'ultimo modello, come va? Sai niente? Dipende. Quello è come il BSX, capito Bobbia. Dipende, se lo devi usare normale così per casa va benissimo, se lo devi fare aumentare un pochino è un po' così. Perché è molto bello l'ultimo, gli hanno messo un LED alta luminosità per lo smitter, è carino. Ma se uno apre almeno il trimmer della M è passabile, nulla. Vabbè che adesso non, a comprare non ne comprerò più baracchini. No. Sì, da usare 40 canali solo col trimmer aperto, tutto lì. Come questo leggio io? Questo leggio io, Massimiliano, qual è? Il primo modello, come quello che ci avevo modificato, no? Sì, quello tuo è quello old. Al posto di avere la carcassa dorata, c'è la argentata, mi sembra, giusto? Sì, ma interno? No, dorata è dentro. Quelli sono i migliori. L'unica cosa, Marco, se lo devi usare a casa ti consiglio totalmente un altro tipo di radio. Se c'è gente che parla vicino a te lo senti in 40 canali, perché l'Ala 48 piglia un bel colpi. Eia. No, ma tanto guarda, Claudio parla sempre solo con noi, l'unico che mi può splatterare, gli altri sono lontani, Latte Dolce, Santa Maria di Pisa, non credo ci siano problemi, dai. Poi Natalino è vicino a me, Claudio è vicino a me, quando entra Luca Del Monte è vicino a me, non ce n'è problemi. Ma io quelli della Dolce non li sento, non sto usando l'Ala 48 io con le mie BP5, non li sento. Sento Antonello solo, sento Antonello si spegne la radio, capito Massimiliano? Quanto vuoi dicendo? A me Gigi mi ha mandato il coso per fare quella correzione del trimmer, no? L'ho corretto, mi dà 12 watt adesso di portante bianca Massimiliano, 12 watt da, capito? Senza oscillazione, senza niente, 12 watt sta uscendo. Perché l'avevano già toccato, deve essere, non so, perché era 8 watt, già l'hai visto, 7, 8 watt, modulati 10, però Gigi mi ha detto alcuni erano già così, e invece adesso me ne dà 12 pieni, e il trimmer del Mickey Gain è al massimo, Marco, e basta, sto andando con l'MB5 che è a metà, va benissimo alla grande. E guarda, allora l'Ala 48 a fianco al modulatore c'ha un trimmerino, lo porti al massimo, quello si è arrivato, non fai altro, se non c'ha canali, se non è modificato, solo quello puoi fare. E quello ho fatto io, Massimino, solo quello ho fatto, infatti Gigi mi ha detto non toccare altro, chiudilo, la Gesarrado è perfetto, a posto, e infatti sto usando sempre questo, sto usando questo perché non disturba, capito? Sto usando questo, 12 watt già va bene, alla grande, ve ne fa i buchi. No, vabbè, io se riesco questo qui lo do via, questo è il 3009, lo sto usando io sono a 0 di watt, però questo è già un finale a MOSFET, un po' perché ballacca, no? E 9, sull'Ala 48 sta arrivando 9,10. va bene Massimiliano, alla grande, bella modulazione, bella corposa, va benissimo. Tatali, e tu non puoi aumentare più niente, così, è sempre a minimo devi stare. Se no succede la guerra qua. E se succede la guerra potrei comportarmi male. Già sei armato, dai. Puoi difenderti. Assalità, da assalità. E vabbè, ma non è che possono rompere le balle a vita, no? A un certo punto si mettono a piombo. Io ti devo passare sempre quel filtro, Natalia, è probabile. Chiuso, Michigan, ce l'ho a mezzogiorno, fate uno di portante intorno ai 30 modulati, è buono, va, va bene. Ehi, Massimiliano, quindi fai i buchi, alla grande, tu hai detto sei 9-10. 9-10 sì, con chiaramente picchi positivi, però si muove poco, là, sulla 48 magari sull'altro, su quello grande si muove di più. Ah, vabbè, fa fare due giacce di uscita. Intanto devo, dove vogliamo andare? Più che sufficiente, lascialo stare a Natalino, non lo istigare a, a fare la cassetta di cartucce, che lasciale sta tranquillo, che lo sentiamo benissimo, perché deve stare a aumentare? Cosa di Nafuti? Ma perché Natalino? Don Raghisi si sono citati. Natalino, avvicinati al microfono, che è un giornalista questo. Non può mandare i suoi lavori alle televisioni, alle cose, quello che fa a Facebook. Ah, e perché sta detornando il computer del vicino, capito Massimiliano? E siccome uno che lavora col computer, allora è quello che gli ha fatto mettere l'antenna Sumi, l'antenna della TV, capito? Per quello lo vuole disturbare. No, dell'altro non era Putinù. Avete parlato in due? Sì, ho capito, io ho detto, se Natalino non si avvicina al microfono alla bocca, non lo capisco. Ma infatti io uso il microfono normale, se no non lo capiamo. Guarda un po' adesso, mi capisci? Che è una caguba, c'avevo anche il macchinino in basso per non uscire. Aspetta un attimo, sto facendo una cosa, ma... vabbè, lascia la manetta, non è che io non disturba, che la potenza è disturba, se no non esci manco in radio. Vabbè, qua è 9,5 Natalino, quando aumenta 2 figurati da 9,5 è andata la manetta 9,30. Cosa stavi dicendo Marco? Abbiamo parlato in due. Ehi, prima con Massimiliano avete ripreso... No, volevo dire, Massimiliano, mai ne hai sentito tu? Il baracchino che disturba il computer, o tipo il mouse wifi del computer, che funziona a 2400 MHz, con la 27 già c'è una differenza, com'è possibile? No, io non ho mai sentito questa cosa. No, la cosa del mouse mi puzza. Se poi entri nelle casse del computer può anche essere, ma che disturbi il computer no. Allora che spieghi bene? Se entra nel cassa basta mettere piccoli toroidi lungo il filettino, il cavo delle cudele, dei retroparlanti, ecco che sparisce, però la gente non ne vuole fare, capito? Non ne vuole fare, è sempre il baracchino che deve zittire o spegnere tutto, come chi chiude i potenziometri, ridicolo, capito Massimiliano? A me uno mi ha detto di abbassare, che uso i potenziometri che non ne posso usare, capito? I potenziometri. Dille a quello che te l'ha detto, andare a fare una cagata o a grosso o a fino, capito? Ascolta, oh Marco, tu che sei il mago del 3009, quanto si può vendere questo 3009? Non ne ho idea. Ma quel 3009, però, non ci vai tu Marco, quello è modificato. Ciao Lugariello! Ebbene, Bolloni, buonasera, dai. No, sono arrivato 5 minuti fa. E lo vedi, a schiacciare? E quello in terra, no, allora praticamente ti spiego, io ho due numeri. L'ho levato, ne ho levato la sim dal telefono, l'ho aperta in casa, non riesco a trovare nessuna parte, mi sono rotto le palle, sono andato via Pascoli, mi avevo chiesto 30 euro, se ero di sotto di 5 euro, invece se avevo 5 euro nel telefono erano 15 euro, sto bombaricando questa cosa, vado via Umberto e poi dopo la scheda, anche se non c'è niente, 10 euro mi hanno preso, cioè per fare il nuovo, non il nuovo, no, il, come si dice, il doppio, non trovo già mai. Anche a me mi avevano preso 10 euro, dandoti lo stesso numero, così. Sì, sì, l'ho persa in casa. Sì, anche a me, ma non per 10 euro l'attivo. Ciao Lu! Ciao Massimiliano, vabbè dai, adesso mi sto prendendo un telefono che non fa la suoneria, boh. Ecco la terra. È vero. E allora, Mucalù? Tu, Massimiliano, come ti avevi sul calamaro? Buono. Ma come l'hai fatto, fritto? E allora? È avevo l'ora friggendo, però già è uscito buono, eh. Da partire per ragazzo, come piselli, però, boh, erano, cioè, non erano quei calamari nostri, quelli dall'India, boh. No, no, no, Luca lì è. Non li fa calamari con i piselli, fai tottani con i piselli, perché erano una guba. Ma erano buono, saporava buonissimo. I piselli dolci, era buono, cla. Cla, dile quando ti ho mandato io la foto. Ti ho mandato la foto, Massimiliano era un metro, un calamaro gigante. Quello è buono, tagliato a rondelline, ben pulito, farinato e fritto, e va bene, la morte è sua. Però i tottani io quando Anna li fa con i piselli, perché anche a me piacciono, anziché i calamari prende i tottani, capito? Ad anelli e lo fai con i piselli, è più gustoso il calamaro così, tegame con i piselli. Vabbè. Ascolta, aspetta un attimino, sto facendo una prova. Luca, da questo passaggio a questo passaggio cosa è cambiato? La radio ha cambiato? È un po' anche il segnale. Non sono aumentato il Mickey Gain, adesso al massimo. Il segnale è da poco, bene, poco meno di 9 a oltre 9. Vabbè, i vati sono tutti chiusi, da. Sono vati riportati. Confermo Massimiliano, evidentemente spinge di più col Mickey Gain a manetta. Hai più picchi qua. La radio è molto più bella, lasciala così. Così? Va bene? Alla grande. Oh, va bene, dai. Non si è toccato qua, no? E si è attaccato i motori. Aspetta. Aspetta che sono levo un attimino per l'ascolto, che non mi sto ascoltando. Aspetta un attimino, eh. E lì è il corso. Dammi un... non va. Oh, oh, oh. Così è quello di Valerio, me. Chi è sotto? Chi è Valerio? Tu sei Valerione? Certo, anche Valerio mi ha sentito. Ciao Valerio. Se non è mai chiuso, non tu, Massimiliano. Cosa? Che tu? Quello di Valerio, tu o era? No, no, no, no. Non sembrava la modulazione fissante e potente. Ma lui adesso meglio va così? A voglia. Va bene, là. Veniamo qua, così. Lasciamo il parlo ascolta, così mi ascolto. Vabbè, Marco, è cambiato a te così. Allora, qua non lo smitter, è troppo forte, sei già troppo forte per dirti che c'è una differenza di radio. Come troppo forte? Abbasso il Mickey Gain allora, come metto quel primo, eh? Mezzogiorno, bene va così. Beh, adesso è più bassa, ma anche a manetta andava bene, me. Certo che tra Claudio e te c'è una differenza abissale, ma sai cosa vuol dire abissale? Tipo Claudio è Radio 2 e tu sei Radio 5, come volume almeno. Sì, perché Claudio è capo di Bugnetta, capito? Claudio fa la bravo. Perché la modulazione mia bassa secondo te, cazzo, quant'altro mi dici di abbassarla? Ah, boh, tonto, la metto così, così la vuoi. Cazzo, hai sempre dato il meno. No, Clara, a me non è abbassa, andava benissimo, adesso è troppo alta. Ma Marco sempre, boh. Prima la vuoi bassa, poi la vuoi alta. Questo è la comodità che adattavo al microfono, ma io lo tengo basso, non è che devo spaccare le orecchie. Non ce l'ho neanche a metà, se te lo metto oltre la metà, molto alta la modulazione, te già va bene così, ma lo sai voi? Lo sai così, il problema sono le radio totalmente diverse, capito? Lui giustamente adesso mi dice che è bella la mia perché è uguale alla sua, capito? No, no, nel senso che la tua, come quella di Valerio, era fortissima, ma da spaccare le orecchie, e quindi fa impallidire quella del Claudio, quello volevo dire, mi. Ah, quando mette l'eco stai dicendo? Io credo sì, anzi dovuto abbassare il volume pure io quando ho messo l'eco. No, no, anche senza mettere l'eco. Guarda, è come il video che ho fatto l'altro giorno, mi fa Valerio, è impressionante. Devo abbassare il volume, se no qua fa un casino se lo regolo per te, Claudio, capito? Comunque a 350 euro vado subito questa, eh. Via, è bello trovare l'acquirente però. Pensa che io volevo dare quello, il 3900 col frequenzimetro, una persona non l'ha voluto a 100 euro. Ma ci vai tu, questa è senza, eh. Via. No, ma quello che ho io è tipo il Pluto però cromato, è potenza non regolabile. Quello lasciato di fabbrica 4 watt AMFM e 12 watt, però è alzabile perché è MOSFET. Non c'è più mercato, Massimiliano. Poi anche a comprare non ne vale la pena, siamo tre disperati, siamo sempre i soliti tre disperati che teniamo il canale su. Io, Natalino e Claudio, poi sì, ogni tanto entra Luca, entri tu, entra Valerio, ma non c'è altro, non c'è più nessuno, poi vabbè, c'è la ruota del 20, capito, a fazioni. Vabbè, l'importante è che sempre qualcuno ci sia, ma io comunque questo, se trovo anche un Saturneco a scambiare, lo scambio, il problema. Ok, signori belli, io ve la saluto, vi auguro una buona serata, buon sabato per domani e facciamo riprendere a Valerio che poi se vai. Ciao Valerio, Claudio, Luca, Marco, Tattalio e tutti quelli che sono in ascolto qua. Dai, io vi saluto momentaneamente, anzi, definitivamente. Ciao, ciao. Ciao Massimilia. Ciao, ciao Massimiliano. Alle prossime, dai, ci sentiamo. Stammi bene. Avanti, Valerio, riprendi. Aspetta. Via. Ciao Massimiliano, buona serata, buon tutto. E beh Valerio, ti sei fatto un'idea di quel video? Ciao Massimiliano, alla prossima, ciao. Claudio, diglielo tu, se si è fatto un'idea di quel video che gli ho mandato. Hai sentito cosa ti ha detto? Se ti hai fatto un'idea di quel video che ti ha mandato. Eia. Ehi Claudio, tra Valerio e Massimiliano sono fortissimi, proprio fuori scala come modulazioni. Valerio, cioè la modulazione di Valerio sembra quella di Massimiliano, però con un segnale giustamente più basso, capito? Sì, sì, ma Valerio, vabbè, qua c'ha il segnale alto, 9-10, quindi è per quello che la modulazione è un po' un bel, capito? Va bene. Ok, ok. Va bene, va bene. Avanti Natalino. Natalino impegnato, vai Lugarie. Quindi per te va bene la modulazione, Luca? E a voi, da. Va benissimo, aspetta 2 secondi, che mi sto segnando la cosa dalla scheda. KK, mi sono perso anche il telegiornale, pazienza. Fate tutto brutte notizie. Capito, adesso quel coreano mongolo è andato a dire che è Trump che minaccia, che è pazzo. Capito, ma... Vabbè, volevo mandarti un messaggio Claudio, vediamo se ci riesco. Mandamelo, manda. Ascolta, lo mando vocale, se non è troppo lungo a scrivere. Vediamo se lo manda. È lenta la connessione qua, mamma mia, un certo punto mi fa incazzare. Aiuto, così ce ne andiamo. Cazzo, non ce la fanno. Ebbè. Cosa sta toccando qua? Aspetta. Aiuto, connessione schifosa. Questa Wind prende, non prende, prende, non prende. Prova se non ci vuole. Via, però era un bel cara. Cioè, anziché 5 euro al mese, voleva 15 euro al mese. Minchia. E c'è a vedere se cambia la modulazione. Comincia già a cambiare. Quello... K. Beh... freddo, l'ho acceso adesso, vabbè dai. Comunque già cambia la modulazione. Cava cava. Lo pare che cambia, no? Ma che c'è quel cuomane c'è? C'è quel cuomane c'è lì. Quel cuomane sarai tu, hai capito bello bene? O ti faccio schiattare. E beh, Natalia, il computer bene sta andando. E così. Vista. Pensavo che ti avessi dato una fregatura, la tua vita. No, mai pensato che tu mi avessi dato una fregatura. Cosa vale? 44. Beh, questo è il mitico. Sì, ma lo sto usando poco in questo periodo, mi sto divertendo con i baracchini, capito? Però adesso l'ho attaccato di nuovo, attaccato è sempre attaccato, ho commutato l'antenna e basta. Sì, c'è quel cocomane di Natalino, riprendi Natalino. Eia, Luca ti saluta la 50. Eia, cosa cambia? Ma ho sentito me, eh? Mica l'ho sentita, mi ha detto, eh? Vuoi parlare da sola? Ciao Luca. Ciao Concetta, tutto bene? Sì, tutto bene, salutami la tua fidanzata. Grazie, è fuori adesso, in cucina, adesso in camera. Adesso andiamo a mangiare la pizza tra un po', eh. Ci sediamo, e infatti è quasi ora. Tranquilli e sereni, io mangio una bella margherita piccante, e lei ho messa con le patatine, poi qualche birretta, stavolta qualche più di una birretta. Arriverò a casa un po' con cicciare, incintrato. Stai attento, che se bevi non si conclude niente, non si mangia, non si beve, ciao. Ciao, ciao. Claudio. Ti stavo mandando un messaggio vocale. Ciao Conce, buonasera. Ciao Claudio, e fammi bene. Altrettanto Conce, buona serata, eccetera, eccetera. Grazie Claudio. Oia, oia. A mangiare si è andato, Valè? A mangiare? Qua. Mia moglie sai cosa ha fatto? Mi ha suonato il campanello, ha messo a Filippo in ascensore, è salito da solo in ascensore, hai visto che cane intelligente? Ed è tornato a uscire, ci sono le amiche giù che stanno passeggiando, se ne è andato a passeggiare. Cazzo sono 8:30, voglio vedere che ora mangiamo oggi. Ah, così è? Allora, è salito da solo, Filippo ha schiacciato il secondo piano, mi ha bussato la porta, infatti ho guardato lo spioncino, non lo vedevo perché è basso, ho detto, boh, ma era visore, fantasmi. Ho aperto la porta e c'era lui, poverino. No, dico, per il messaggio dicevo. Allora, lascia perdere, meglio nulla, Marco lì. Meglio niente, poi ne parliamo di persona. Meglio niente, a futtidini. Via, via, buono sapersi. Riprendi da Tabino. Eia, sono qui. Tutto per te. Mi intesi la Iba. No. Beh, io sto continuando a mangiare, a rate sto mangiando stanotte. E io ancora non ho mangiato. Ma c'è più la buona pastiglia, ancora non ho mangiato. Anzi, le pastiglie. Beh, ragazzi, io vi saluto, che vado, dai, così iniziamo a sederci tranquillamente. Stasera ho fatto anche la torta, l'hai vista una taglia la torta di mele, mi sono messo io, gliel'ho fatto io l'impasto, gli ha tagliato solo le mele e basta. Ho visto che dalle foto, cioè, l'ho visto non dalle foto, l'ho vista la reale, sembra che sia buona, domani ce la mangiamo. E fai bene, oh iaia, andare giù. Buon tutto, buona serata a te e alla tua 25, alle prossime là. Ti devo far squillare il telefono tutta la notte, eh? A chi lo fai squillare il telefono? Che vengo lì col fucile a pompa e ti sparo il campanello a balla singola. Le telefonate che gli faceva una persona a Paoletto. Tra voci. Stavi bene, eh? Ti devo squillare il telefono tutta la notte. Ma l'hai vista la foto nuova su WhatsApp, Marco? Ah? Cosa sono diventato, l'hai visto? Ah? Eia, mi senza barba sembri molto, molto più giovane. Però ti sei alzato un po' troppo i lati del costume. Ce li hai leggermente ascellari. No, è così quel costume. Che cazzo ascellati? È così, ho preso l'anno scorso dell'arena. È così. Ma guarda che fisico, eh? Non sono ancora dimagrito, più di 10 kg. E infatti ho detto, ma mi so bene, dai. Crevo peggio me. No, non ha di un mazza io. Dice tisico. Bene, chi c'è rimasto qua, dai? Luca è andato, ciao Luca, buona cena, buon tutto, dai. Ciao. Lucarie, tante cosce belle anche a te, dai. Ci sentiamo le prosce, fatti sentire, noi siamo sempre qua. Non temiamo nessuno. Pochi ma buoni. Sono rimasto colpito da quello che mi hai detto lì. Aspetta, quindi pure balla era. Mamma mia, passa via, com'è che dici tu? Passa via. Ogni figura di merda che poi ho fatto, perché quello che lui mi aveva detto, poi chiudo, io l'ho riportato ad altre persone, e se ne è guidato a me per favoraggio, capito? Perché poi quelli sono informati, naturalmente sono andate le carte, e non è assolutamente vero. Lascia perdere, già ne parliamo di persona, puzzie, meglio nuda. Valerio, e cosa c'è? Se quello non foto, ah, ti mando il mio l'impianto, lascia perdere, io. Lascia perdere, per me chi c'è tutta mondezza, ma mondezza barone. E vabbè, però ci vuole ordine anche a fare le cose. Avanti da IS0. No, sono il fratello gemello. Sì, si conferma. Ehi Anto, adesso ci rilassiamo un po'. Buonasera anche a te Falconero. Anch'io poco stavo entrando perché gli impegni di lavoro erano un po' troppo alti, ma adesso che siamo a fine stagione iniziamo a farci sentire un po' più spesso. Sono in compagnia di Marco, Natalino, Valerio D'Alghero, poi c'è anche Luca, che non so se è andato a mangiare. Avanti Marco, Falconero da Torto. Da? Da Torto. Lo sento appena, Ma dov'è? In Sardegna? Sì, Torto. Sorso mi, Torto. Ah, no, vabbè, appena l'ho sentito io. Io starei anche chiudendo, dai. Dai, però già abbiamo parlato abbastanza, ok. Ciao Natalino, ciao Claudio, ciao Luca, chiuso. E ciao a tutti, dai. Sentiamo le prossime, dai. Ciao Marco, dai, ci sentiamo. Invece aspetta mia moglie perché io vado a cenare. Natalino, senti a Falconetto. No, negativo. Vabbè, dai, sto chiudendo anch'io che sto cenando. Ci sentiamo, saluto a tutti, dai. Ciao Natalì, buona cena anche a te, dai. Valerio, senti tu a Falconetto. Non ho capito, vabbè, Falcone, Valerio non ti sente D'Alghero, riprendi. Va bene, dai, Anto, ti devo salutare anch'io, sei entrato troppo tardi, dai, che è già salita mia moglie ed è pronto. Ok, fate TND invece la sera, che noi siamo sempre noghi, capito mi hai? Ciao, un abbraccio, saluta moglie, ciao a tutti quelli che sono all'ascolto sul canale 10, ciao Valè, ci aggiorniamo domani, buonanotte a tutti, eia, ciao Anto, ciao Valè, ci sentiamo le prossime, dai, ciao.